Poi lo prende per vero questo mattino. Sostituire l'amico Boifara, cercherò di farlo al meglio, cercherò di seguire le tracce che gli sono state distribuite prima della collezione, con alcune integrazioni, anche perché mi rendo conto che forse rispetto al titolo della lezione qualche argomento in più forse andava inserito. E con l'amico Maurizio Boifà, dopo l'altro ci siamo un po' divisi, diciamo, i compiti. Che vi dico adesso, lo scoprirete poi, perché no, ma voglio dire, è praticamente una divisione anche che segue abbastanza l'ordine della tratta di Maurizio Boifà. Però, a differenza di quello che trovate qui elencato nello schema di lezione, i criteri di aggiudicazione sono già stati affrontati, quindi vediamo per assolti come argomento, nel senso che credo che sia stata una qualità lezione sul punto, quindi non sto a ripetere su questo. Vorrei fare appunto le problematiche dell'aggiudicazione, della stipulazione e dell'esecuzione del contratto, il problema della sospensione dei lavori e le riserve. Quindi lascio calcolato le restanti parti. In realtà poi integro una parte rispetto a questa tratta che rappresenta nel titolo della lezione, che riguarderà le garanzie, perché in questo modo sono un aspetto anche interessante e importante, con alcune pronunce giurisprudenziali recentissime e piuttosto significative che vale la pena di affrontare. Allora, ci siamo lasciati, per quello che mi riguarda, con la trattazione, diciamo, di quello che erano le procedure di affidamento in generale. E trattando delle procedure di affidamento si era detto, e quindi lo ripeto molto brevemente, che come ogni procedimento, come ogni sequenza di atti e di comportamenti, sfocia in un provvedimento espresso, che è poi il provvedimento di aggiudicazione. E proprio da questo argomento possiamo iniziare la trattazione di quello che è la lezione di oggi. In realtà anche Boifava giustamente voleva mettere in evidenza quelle che sono le caratteristiche del provvedimento di aggiudicazione definitiva rispetto ad esempio a quello che la prassi ha denominato spesso aggiudicazione provvisoria, che in realtà non è un vero e proprio provvedimento, è un atto procedimentale, non è un provvedimento espresso, non ha una sua autonoma impugnabilità in quanto non è ritenuto immediatamente lesivo. Ecco, questi sono argomenti abbastanza interessanti che, ripeto, probabilmente ricordano quello che vi ho già detto la volta scorsa, però in realtà hanno comunque un rilievo piuttosto importante, perché voi dovete anche tener conto, e questo poi sarà un po' il filone anche, diciamo, di molti degli argomenti che dovremo trattare oggi, che la distinzione netta tra procedura di aggiudicazione e esecuzione del contratto ha un rilievo anche sotto il profilo delle giurisdizioni, cioè un vero e proprio spartiacque, diciamo, per distinguere la giurisdizione del giudice amministrativo e da quello del giudice ordinario, e quindi non è un momento di poco rilievo, lo vedrete e lo vedremo insieme, ci sono alcune pronunce giurisprudenziali sul punto assai significative. Per quanto la recente, insomma non recentissima, introduzione del concetto di giurisdizione esclusiva in materia di appalti abbia tentato un po' di estendere anche il campo della giurisdizione amministrativa, perché si ritiene appunto che anche nelle procedure di affidamento le posizioni giuridiche soggettive che vengono in rilievo possono anche essere di diritto soggettivo, e quindi l'attribuzione della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo nel campo degli appalti ha costituito comunque anche un momento, diciamo, per estendere leggermente rispetto al riparto tradizionale, sto parlando di quello ovviamente fino agli anni 90, il riparto tradizionale era rigidissimo, nel senso che il giudice amministrativo si occupava esclusivamente di quello che era la procedura di affidamento, non avendo nessun tipo di possibilità di ingerirsi su quelle che erano invece le sorti successive dell'esecuzione, anzi spesso veniva bene proprio anche in fase di giudizio giocare bene su quelle che erano magari le sorti successive dell'esecuzione. Mi spiego meglio, molte volte si porteva in giudizio amministrativo, ad esempio sull'anomalia o sulla incongruità di un'offerta, si poteva introdurre un riferimento alla fase magari esecutiva che aveva avuto già immediato corso, e fare riferimento a quella fase per dire: vedete, tant'è che hanno dovuto modificare l'oggetto del contratto, hanno dovuto a riprova della mia tesi sulle incongruità, io vi dimostro che quando poi l'appaltatore ha dovuto andare a iniziare il servizio ha dovuto modificarlo fin dall'inizio. Ecco, queste erano tesi che qualcuno pensava di introdurre in un giudizio amministrativo anche un po', ripeto, a fini, diciamo, di supporto alle proprie tesi, però erano agevolmente controdedotte con la affermazione del principio per cui quello che avviene nella fase esecutiva non ha rilievo per quello che riguarda la procedura di affidamento, quindi i vizi della procedura di affidamento hanno un rilievo autonomo e non possono riguardare le vicende successive, non possono essere interessati dalle vicende successive dell'esecuzione. Gli strumenti per eventualmente porre rimedio a vicende patologiche dell'esecuzione sono altri e non possono queste vicende eventuali patologiche o significative non hanno rilievo, ripeto, nel giudizio amministrativo. Questo era per dirvi che comunque lo spartiacque delle giurisdizioni rimane confermato. Al fine di chiarire anche meglio dove si colloca questo spartiacque, è ovvio che occorre prima di tutto definire quando si conclude il procedimento di aggiudicazione, e il procedimento di aggiudicazione si conclude con l'aggiudicazione definitiva. Tutte quelle definizioni che la prassi ha introdotto, tipo aggiudicazione provvisoria, graduatoria finale, proposta di aggiudicazione, perché poi le vedrete magari nell'uso comune variamente denominate, sono comunque qualcosa di diverso dal provvedimento che pone fine al procedimento di aggiudicazione, che deve essere ovviamente emesso da un organo competente, che ad esempio negli enti locali, vedo che qui anche il collega Boitava ha cercato anche di evidenziare qual era il problema della problematica del soggetto competente, soprattutto negli enti locali, perché negli enti locali il dirigente di fatto ha una competenza che gli deriva da una specificità appunto della normativa sugli enti locali, in questo momento sugli enti locali, che riguarda sia la procedura di gara che la stipula finale, l'aggiudicazione definitiva, cioè l'emissione del provvedimento definitivo e anche addirittura la stipula del contratto. Quindi si era visto in questo assommare di competenze una sorta di potenziale vulnus al principio del controllore controllato, in realtà poi invece la giurisprudenza ormai si è consolidata nel senso di ammettere che sia il dirigente dell'ente locale a poter svolgere tutte queste funzioni in ragione di una razionalizzazione di principi di buon andamento che comunque superano queste eventuali obiezioni appunto sul problema del fatto che questi possa essere il presidente, ad esempio, presiedere le operazioni di gara e dopo approvare gli esiti delle procedure stesse, della procedura stessa disponendo l'aggiudicazione definitiva. Quindi questa era per sommi capi la somma trattazione dell'argomento in relazione all'aggiudicazione. Poi, se vogliamo prendere a riferimento il materiale che vi è stato dato, innanzitutto appunto mi viene agevole ribadire quello che già avevo detto l'altra volta, che l'aggiudicazione provvisoria è un atto endoprocedimentale e ha semplicemente produce effetti prodromici all'adozione della determinazione conclusiva. Quindi come tale questa è un'affermazione che ormai in giurisprudenza viene più volte ribadita e quindi come tale potrebbe assumere una valenza di definizione generale. L'aggiudicazione definitiva è l'atto conclusivo del procedimento e anche quando recepisce integralmente i risultati dell'aggiudicazione provvisoria, quando di fatto sostanzialmente ripete e non fa altro che riprodurre questi risultati, comunque essa è frutto di una nuova autonoma valutazione rispetto alla provvisoria, anche se parte ovviamente della medesima sequenza procedimentale e conclude questa sequenza procedimentale. Per cui tenete conto del fatto che in teoria, e nella pratica può anche avvenire, poi vedremo come, all'atto del pronunciare la giudicazione definitiva, tutto quello che è stato compiuto in precedenza, la stessa giudicazione provvisoria, è oggetto sostanzialmente di una valutazione da parte dell'organo competente ad emettere questo provvedimento finale, che come tale potrebbe anche portare, ad esempio, a un riesame, ad un risultato diverso da quello prospettato nell'atto endoprocedimentale della giudicazione provvisoria. Questo lo vedremo perché è significativo, perché ad esempio ha delle conseguenze sia soprattutto ad esempio in termini di eventuali qualificazioni dell'atto. In realtà non si può, non è proprio parlare di una revoca, di una giudicazione provvisoria, mentre è proprio parlare di una revoca, di una giudicazione definitiva, perché la giudicazione provvisoria in quanto tale, non avendo appunto portato a termine il procedimento, non rileva come una vera e propria revoca, e questo avrà delle conseguenze che vedremo anche immediatamente sul problema della natura della revoca, delle conseguenze anche eventualmente nei confronti dei soggetti che su questa giudicazione hanno fatto certi affidamenti. Vabbè, poi avevo già anche accennato, probabilmente forse vale la pena ancora di ribadirlo, in relazione proprio a questo tipo di natura specifica della giudicazione definitiva, e invece il fatto che la giudicazione provvisoria non sia un vero e proprio atto finale, è ovvio che non vi è l'onere di impugnare la giudicazione provvisoria, esiste semplicemente la facoltà di impugnarla, e questo è un senso giurisprudenziale ormai consolidato. L'atto lesivo è solo quello conclusivo del procedimento, cioè la giudicazione definitiva, che è sempre autonomamente atto lesivo, che come tale va in ogni caso impugnato, anche se sia già stata impugnata la giudicazione provvisoria. Se volete gli estremi di questa decisione, che comunque, ripeto, non è significativa perché è abbastanza recente, ma non è nuova, o comunque è una delle tante, è la sesta sezione del Consiglio di Stato, 29 novembre 2004, numero 7802. Quindi tenete conto che, allora, molte volte vi capiterà, se siete avvocati o comunque siete di parti private, che il soggetto privato che ha partecipato a una gara si presenti a voi con un provvedimento di giudicazione provvisoria e vi dica: dobbiamo insorgere perché a questo punto c'è il rischio che nelle more il servizio venga eventualmente immediatamente affidato, anche perché la giudicazione provvisoria di fatto è più facile da conoscere, perché sostanzialmente a volte è sempre resa nota in sedute pubbliche, diciamo, o comunque immediatamente dopo la seduta pubblica. La giudicazione definitiva, facendo magari seguito a un iter appunto più interno all'amministrazione attiva, a volte sfugge alla conoscenza del privato, alla conoscenza immediata, dico. Per cui è più facile che si rivolga a voi uno con la notizia del punto di questa giudicazione provvisoria, perché l'ha saputo in seduta pubblica, e poi la giudicazione definitiva magari interviene dopo la verifica d'anomalia o quant'altro, quindi magari sfugge un minimo di tempo, che un lasso di tempo nel quale invece varrebbe la pena di insorgere subito con un ricorso per impedire appunto l'inizio del servizio, per impedire che si consolidino situazioni che poi di fatto non vengono con la sospensiva più sovvertiti, insomma. Quindi è abbastanza frequente, almeno nella prassi nostra di legali che assistono parti private, è abbastanza frequente che si ponga ricorso solo nei confronti della giudicazione provvisoria. Per contro, però, esiste l'onere, proprio in relazione alla giudicazione che vi ho citato adesso, ed è un onere che deve essere ben presente all'avvocato che propone ricorso solo sulla giudicazione provvisoria, di impugnare necessariamente la giudicazione definitiva nel momento in cui la conosce, nei termini ovviamente decadenziali, perché la carenza di impugnazione della giudicazione definitiva di fatto fa decadere il ricorso sulla mera giudicazione provvisoria, quindi è proprio una cosa da evitare in maniera più assoluta. Fatta questa premessa, appunto, quello che mi teneva anche col conforto della giurisprudenza che ha citato, che vi ha prodotto appunto l'avvocato Boifava, bisogna sempre dire che la pubblica amministrazione in fase di approvazione dei risultati di gara deve comunque riesaminare gli atti stessi, quindi può verificarsi che ad esempio carenze documentali o appunto particolari che non, magari erano sfuggiti alla commissione o che sono stati frutto quindi magari di un errore segnalato dagli stessi concorrenti, ma non dalla commissione stessa, possono essere questi elementi rivisti e riesaminati all'atto di emissione della giudicazione definitiva, e come tali ovviamente, ripeto, non costituiscono una revoca della giudicazione, perché la giudicazione definitiva è proprio l'atto col quale questo riesame eventualmente interviene. Non è infrequente, insomma, che appunto si possa fare un'attività di questo tipo. È chiaro, ripeto, bisogna vedere che tipo di procedura che tipi di affidamenti in concreto stiamo trattando, cioè in una procedura di aggiudicazione di un appalto semplicissimo, al solo prezzo, che avviene con un meccanismo quasi matematico del prezzo più basso, del taglio delle ali, è difficile che ci siano problematiche complicate che meritino un riesame, cioè meritano tutto un riesame, ma che poi questo riesame porti a esiti diversi da quelli dell'aggiudicazione provvisoria. Per contro, in gare complicate, nelle quali la Commissione ha lavorato magari con difficoltà, in ipotesi, ripeto, che non sono frequentissime, ma che non sono neppure così rare, può capitare che tra l'aggiudicazione provvisoria e l'aggiudicazione definitiva intercorra un lasso di tempo piuttosto consistente, nel quale ad esempio si verifica, non so, anche l'anomalia delle offerte, si compiono tutta una serie di attività che poi eventualmente danno anche portano a assumere risultati diversi da quelli dell'aggiudicazione provvisoria. In relazione proprio a questo, mi sembra significativo anche segnalare che appunto la aggiudicazione provvisoria è comunque, proprio in quanto atto procedimentale, il rapporto tra aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva, proprio per la natura peculiare dell'atto interprocedimentale dell'aggiudicazione provvisoria, di per sé non esprime quindi l'iter di un procedimento di secondo grado, tipico ad esempio del riesame anche di autotutela in via amministrativa. Mi spiego meglio. All'atto dell'emissione dell'atto di aggiudicazione definitiva, questo riesame è un atto dovuto, quindi ad esempio non si dovrà fare la comunicazione di avviso del via del procedimento per dire la graduatoria dava un certo risultato, a questo punto avverto tutti che la sto rivalutando, perché ripeto, in ipotesi normali sembra quasi aberrante dover ricorrere a questo strumento, ma se voi pensate che a volte può tra l'aggiudicazione provvisoria e l'aggiudicazione definitiva decorrere un lasso di tempo piuttosto cospicuo, a volte si parla di mesi, anche anni, io ho seguito gare in cui tra la graduatoria pubblicata in seduta pubblica, dichiarata in seduta pubblica e l'aggiudicazione definitiva è passato un anno e poi in realtà l'aggiudicazione definitiva non siamo mai arrivati perché l'amministrazione ha ritenuto di non procedere in questo senso, allora qualcuno si era anche, dei concorrenti si era anche lamentato dicendo tu comunque nel momento in cui decidi di riesaminare e di decidere diversamente l'esito di una gara, addirittura revocandola integralmente, devi dare avviso dell'avvio del procedimento di riesame. In realtà, per quello che ci siamo detti prima, cioè proprio perché comunque è solo per l'aggiudicazione definitiva, di fatto che si arriva alla fine del procedimento e all'atto dell'aggiudicazione definitiva si deve fare un riesame di tutto quello che è avvenuto prima, voi capite che l'obiezione dell'avviso dell'avvio del procedimento di fatto decade sotto questo profilo. E questo mi sembra di poterlo dire anche col conforto di una adunanza plenaria ormai, neanche recentissima, l'adunanza plenaria del 2001, la numero 2, che proprio nella prima parte della motivazione, affrontando altre problematiche, comunque questo discorso sull'aggiudicazione provvisoria, sul fatto che comunque non è un procedimento di secondo grado, ma è semplicemente tutto inserito in un lato di un procedimento unitario di gara, consente queste affermazioni e quindi insomma, è un conforto proprio a questa tesi. Il collega vedo che vi ha dato altre pronunce sempre in questo senso, quindi le trovate numerate nel materiale che voi avete a disposizione, anche la sentenza del Star Saldeglia del 2003, la numero 8 qui citata, ribadisce sempre quello che ci siamo detti. Sempre nell'esame del materiale che Maurizio Boifà ha messo a vostra disposizione, c'era quel problema appunto sulla competenza ad emettere l'approvazione degli atti di gara, cioè in pratica l'aggiudicazione definitiva. Tenete conto che un conto è l'aggiudicazione definitiva e un conto nei lavori pubblici è poi la decisione di approvare l'articolo del contratto, comunque l'approvazione dell'aggiudicazione per quello che riguarda determinati tipi di amministrazioni, per cui lo vedremo un attimo dopo quando parleremo della stipula, ci può anche venire in rilievo anche questo tipo di provvedimento, che però, ripeto, nella prassi degli enti locali, non, appunto, non che non so, amministrazioni, enti dipendenti dallo Stato, amministrazioni statali, non ha in questo momento rilievo. Quindi quando il collega parlava del soggetto competente a approvare gli atti di gara intendeva riferirsi soprattutto ovviamente alla giudicazione definitiva, come esito del riesame di questi degli atti del procedimento. Ecco, in realtà appunto il materiale che avete a disposizione mette in evidenza come il ruolo della dirigenza negli enti locali sia assai significativo, tanto che porta il dirigente ad assumersi il ruolo sia di presidere le commissioni di gara, sia di essere responsabile della procedura d'appalto di concorso, sia di stipulare il contratto, e lui ovviamente gli ha fornito l'articolo specifico del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Sul punto segnala, e fa bene segnalarlo, quindi mi sento di segnalarlo anch'io, una giurisprudenza che si era posta al problema di concordare questa disposizione del testo unico con la disposizione della legge quadro sui lavori pubblici che riguarda le commissioni di gara. Ne avevamo fatto cenno anche l'altra volta, vi avevo ricordato, se ricordate, vi avevo parlato di quell'articolo 21, gli ultimi commi dell'articolo 21 della legge 109, che dettavano alcuni principi generali in materia di commissioni di gara e alcune anche norme sulla composizione delle stesse commissioni quando si tratta di affidare licitazioni private aggiudicate con criteri di offerta economicamente più vantaggioso o appalti concorso. Quella norma vale un po' come norma di principio, soprattutto per quello che riguarda le incompatibilità e quant'altro, ad esempio quindi il divieto di partecipare a queste commissioni se si è già partecipato al procedimento, se si aveva progettato l'opera, se si era contribuito alla progettazione dell'opera, oppure anche il divieto di partecipare alle attività successive dell'amministrazione relativa a questo appalto se si è fatto parte della commissione. Ovviamente questo problema riportato nell'ambito degli enti locali creava la questione di sostanza di vedere se il dirigente poteva essere responsabile del procedimento, presiedere eventualmente la commissione di gara e poi incaricarsi invece anche della stipula. E sembrerebbe, applicando questi principi che la legge quadro dei lavori pubblici aveva enunciato, che non fosse possibile. Invece si è creato un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, e voi lo trovate appunto con la sentenza che qui è citata come numero 11, che dice appunto che nell'ambito degli enti locali i principi dell'articolo 21 della legge quadro non si applicano ai dirigenti degli enti pubblici, in quanto l'ordinamento degli enti locali impone ai dirigenti di presiedere le commissioni di gara il concorso assumendo la responsabilità delle relative procedure, e quindi il problema è risolto da questo orientamento giurisprudenziale. Peraltro questo orientamento è un orientamento consolidato, io ne ho trovato anche una precedente, quindi sempre del Consiglio di Stato del 2003, che parlava anche in questo caso espressamente anche della stipula dei contratti, quindi i dirigenti degli enti locali sono responsabili della procedura d'appalto e della stipula dei contratti, quindi il quadro dovrebbe essere abbastanza chiuso anche perché per il riferimento esplicito alla normativa che abbiamo già visto, insomma, e quindi la giurisprudenza che il collega vi ha citato mi sembra assolutamente ormai consolidata e non dovrebbe creare problemi. Vedo che qui le note sul punto sono, cioè i precedenti di testare sono più di uno, li trovate nella allegazione che vi ha dato, dei documenti che vi ha dato la scuola, e quindi potete fare riferimento ad essi. Un'integrazione che volevo fare su quello che era il problema che anche in questi punti era evidenziato era quello proprio sulle conseguenze e sulle possibilità di autotutela. Atteso che l'autotutela riguarda, non voglio più ripeterlo perché sennò ho anche di trattarmi, l'aggiudicazione definitiva, il problema che si pone in relazione a questa aggiudicazione è proprio quello di capire che margini esistono per l'amministrazione in relazione alla avvenuta emissione di un provvedimento di aggiudicazione definitiva, e che possibilità appunto l'amministrazione, per sopravvenute esigenze, per circostanze, ripeto, che si sono verificate tra l'indizione e l'aggiudicazione stessa, che possibilità resistono perché l'amministrazione decide di revocare il provvedimento dell'aggiudicazione definitiva e non dar corso quindi alla conclusione del contratto, quindi non dar corso di fatto all'affidamento dell'appalto. Ecco, sul punto diciamo che si deve segnalare anche recentemente, con una recentissima decisione dell'adunanza plenaria, diciamo un'inversione significativa di tendenza. I vecchi maestri, cioè senza andare tanto lontano nel tempo, fino a una decina di anni fa, erano convinti che l'amministrazione pubblica fosse, diciamo, tutto sommato libera, con le mani abbastanza libere, e potesse anche, una volta che fosse pervenuta alla conclusione del procedimento di aggiudicazione, fosse quindi arrivata all'emissione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, fosse abbastanza libera di decidere di non procedere alla stipula del contratto, di non dar corso alla stipula del contratto, all'esecuzione dell'appalto. Sulla base di principi generali che dicevano appunto che l'interesse pubblico prevalente era poi quello appunto della stazione appaltante, che non poteva per certi versi sentirsi obbligata a stipulare o ad eseguire un contratto che non aveva più ragione di vedere eseguito sostanzialmente, quindi in forza di questo la sostanza di questo discorso era quello per cui si poteva correre il rischio, non tanto astrattamente ma molte volte concretamente, di partecipare alla gara, di vincerla e poi sentirsi dire che i finanziamenti erano finiti, che sopravvenute esigenze rendevano una determinata opera pubblica non più utile o quant'altro, e di fatto il concorrente che pure aveva ottenuto questa aggiudicazione non otteneva poi in concreto l'affidamento dell'appalto. Tutto questo ormai ha avuto, diciamo, una radicale inversione, perché di recente si sono affermati principi diversi, si è cercato anche di tutelare quella che è l'aspettativa dei concorrenti ad una gara, si è cercato di capire che evidenziare qual è la posizione dei soggetti che spendono, che investono in una partecipazione ad una gara pubblica, e la più recente sentenza, che peraltro, ripeto, sotto questo profilo è anche molto significativa, dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato 5 settembre 2005, numero 6, appunto si prefigura come una pronuncia assai significativa. Perché? Perché comunque afferma ormai in maniera piuttosto decisa che la revoca di un'aggiudicazione disposta ad esempio per mancanza di mezzi finanziari, per la sopravvenuta mancanza di mezzi finanziari o per anche una mal ritenuta iniziale sussistente di mezzi finanziari, comporta la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, ovvio precontrattuale, perché qui stiamo parlando di un'aggiudicazione definitiva che però non ha ancora creato ovviamente in capo al soggetto aggiudicatario alcun tipo di diritto nascente da un contratto. Il contratto non esiste, quindi stiamo parlando di responsabilità precontrattuale, però questa responsabilità precontrattuale sussiste e arriva anche nello sviluppo della stessa decisione a definire quelli che devono essere i criteri per definire l'ammontare del risarcimento del danno, i criteri di individuazione, quindi è anche significativo su questo, con una pronuncia abbastanza grave in termini economici, perché arriva a dire che nel momento in cui, per quanto questa decisione di revocare la gara possa essere considerata legittima, costituisce comunque un motivo di responsabilità precontrattuale a carico dell'amministrazione che appunto questa revoca ha disposto, e arriva a stabilire che il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale a seguito della revoca dell'aggiudicazione vada riconosciuto nel limite dell'interesse negativo rappresentato dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative e dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipula con altri di un contratto almeno parimenti vantaggioso. Quindi sostanzialmente potrebbe sembrare una soluzione, diciamo, non estremamente onerosa, perché diceva: tu mi mostri quale spese hai sopportato per partecipare alla gara, perché le spese utilmente sopportate nel corso della trattativa sono queste, e mi dimostri quali sono le occasioni che hai perso impegnandoti in questa gara e non dedicandoti ad altro. Però, nello specifico di questa seconda diciamo, voce di danno, arriva a dire che la mortalità del risarcimento può essere determinata in via equitativa, riconoscendo al concorrente l'utile economico che sarebbe derivato dalla gestione del servizio messo in gara nella misura del 10% dell'ammontare dell'offerta. A meno che poi il bando non ammettesse, anzi secondo me anche se il bando non lo prevede, la facoltà di la riduzione del quinto è sempre consentita dalla legge, quindi a meno che l'amministrazione non potesse ridurre di un quinto l'importo del contratto, anche in questo caso il 10% va calcolato su 4 quinti dell'importo di gara. Onestamente mi sembra un po' troppo arrivare a dire che la responsabilità precontrattuale si sostanzia in questi termini, perché probabilmente adesso, soprattutto negli appalti di servizi, a parte forse qualche eccezione, un utile del 10% rispetto all'importo di gara mi sembra veramente quasi impraticabile, cioè non c'è nessuna azienda che riesca ad aggiudicarsi un appalto pubblico ricavando un margine di utile del 10%, quindi mi sembra un'affermazione un po' anche antistorica, per cui è probabilmente eccessivamente gravosa per l'amministrazione, che deve riconoscere a un concorrente un utile che questi, se avesse eseguito il contratto, non avrebbe mai ottenuto. Però, ripeto, forse si è esagerato in un altro senso. Certo, si è cambiata quel filone ormai, ripeto, della tradizione che portava a dire che chi partecipava alle gare poteva veramente rischiare di vedersi revocata l'aggiudicazione all'esito della procedura, pur felicemente conclusa a suo favore, senza poter ricavare alcuna utilità concreta. Quindi questa è veramente una recentissima decisione, e dell'autunno di quest'anno. Le conseguenze di questa decisione le vedremo poi in concreto volta per volta. Io sto aspettando una sentenza del TAR Lombardia che proprio su questo dovrebbe esprimersi, spero che non si esprima in termini di 10%, io sono per l'amministrazione, mi piacerebbe tanto dover sopportare una cosa di questo tipo, una pronuncia di questo tipo. Tenete conto che ovviamente nel momento in cui negli ultimi anni si è cominciato a introdurre la cosiddetta responsabilità da contatto con l'amministrazione, sto parlando anche di settori completamente diversi dagli appalti, ad esempio nell'articolo di una convenzione urbanistica si fanno trattative per anni con un comune che tiene l'operatore economico in ballo, ripeto, con rilanci, rimodifiche progettuali e quant'altro, poi l'amministrazione decide a un certo punto di fare tabula rasa di quel progetto appunto edilizio e di cambiare completamente la destinazione dell'area, vanificando tutto lo sforzo imprenditoriale, progettuale del privato, è stata riconosciuta anche in quel caso, ripeto, solo recentemente, mentre fino a 10 anni fa non si sognava neanche di prendere una via, è stata riconosciuta una sorta di responsabilità anche quantificabile economicamente. Ecco, questi sono i segnali che qualcosa sta cambiando in maniera significativa nei rapporti tra privati e pubbliche amministrazioni, viene meno, diciamo, sta venendo meno quella posizione di primazia e di quasi libero arbitrio, comunque libertà d'azione tipica delle pubbliche amministrazioni. Non era infrequente, ad esempio, nei piccoli comuni che a ogni tornata elettorale, a seconda del colore politico, insomma, dei titolari del potere politico, cambiassero le decisioni in relazione, ad esempio, a un'opera pubblica. Io mi ricordo bene, perché l'abbiamo seguita, c'è stata una decisione comune dell'Inter la milanese di costruire una scuola, hanno aggiudicato una gara, poi è cambiato alle elezioni, si è presentata una giunta proprio con l'obiettivo di dire non facciamo la scuola, e quindi quella che era la gara già indetta col progettista già scelto, con la gara d'appalto per la costruzione quasi in corso di svolgimento, è stata travolta dal fatto che il sindaco nuovo eletto aveva vinto semplicemente perché non voleva che questa scuola avesse. Ecco, tutto questo, ripeto, non dovrebbe più verificarsi, dovrebbe verificarsi meno nel momento in cui queste scelte non sono più, ripeto, semplicemente discrezionalità amministrativa svincolata dalla realtà dei rapporti con i privati, ma diventano fonte di responsabilità concreta, per cui non è che si può pensare di fare e di fare liberamente il procedimento amministrativo e gli atti amministrativi. Del resto, qui ve lo segnalo, ma sicuramente anche qualcuno, non in questo modulo di lezioni, ma ve ne ha già parlato, la revoca del provvedimento nella nuova versione della legge sul procedimento amministrativo, cioè la 241 come modificata dal febbraio di quest'anno, l'articolo 21 quinquies, stabilisce che la revoca possa intervenire appunto per motivi di interesse pubblico nel caso di mutamento di situazione di fatto, sto leggendovi appunto l'articolo 21 quinquies, scusate, ho citato, di averlo citato bene prima. Il 21 quinquies appunto stabilisce questi motivi di interesse pubblico consentono la revoca dei provvedimenti, però se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. E quindi questa norma di diritto positivo non è altro appunto che diciamo, l'espressione di un principio nel quale si muovono poi la giurisprudenza che vi ho citato prima, la responsabilità da contratto, la responsabilità precontrattuale e quant'altro. Beh, vi avevo detto che era importante definire diciamo, lo spartiacque tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria, proprio perché il giudice amministrativo, per quanto abbia su di sé attribuita anche la giurisdizione esclusiva, si occuperà solo ed esclusivamente delle scontroversie derivanti dalle procedure di affidamento di lavori, mentre quelle che traggono origine all'esecuzione del contratto rimangono sicuramente affidate alla giurisdizione del giudice ordinario oppure, vabbè, poi lo vedremo, alla competenza di un collegio arbitrale, fermo restando che la competenza di un collegio arbitrale comunque si incardina sempre nella giurisdizione del giudice ordinario. La giurisprudenza della Cassazione sul punto arriva anche a dire che quando le parti prevedono, cioè quando l'accordo delle parti in realtà, quindi lo schema di contratto, prevede l'impegno dell'impresa, schema di contratto dato in fase di gara, l'impegno dell'impresa di accettare l'offerta di consegna anticipata dei lavori nelle more del tipo del contratto, allorché si discuta dell'adempimento di quest'ultima rispetto a detto impegno, della risoluzione del rapporto, siffatta controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario riguardando l'esecuzione del rapporto. Quindi in realtà questa sentenza che vi ho citato adesso, ce ne sono due del 2005, della Cassazione delle Sezioni Unite, distinguono nettamente procedure di affidamento dei lavori da esecuzione, ma sembrano distinguere questi due campi di applicazione ben diversi della giurisdizione, indipendentemente dalla mera stipula del contratto, perché qui, in questo caso, sono arrivate a dire che quando anche si sia consegnato il cantiere prima della stipula del contratto, purché ci fosse un accordo in questo senso, e ovviamente un accordo in questo senso delle parti, a questo punto si entra nella sfera dell'esecuzione del contratto e quindi l'esecuzione del contratto è giurisdizione, appunto, devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Mi sembra un'affermazione anche significativa proprio perché consente, ripeto, di definire i due campi di applicazione indipendentemente da quella che comunque è un elemento importante, perché l'articolo del contratto per contro ha dei rilievi sotto profilo comunque della forma scritta necessaria e sostante, ne parleremo un attimo, e quindi è una cosa comunque molto importante. Beh, poi qui ci sono altre decisioni che richiamano appunto questa distinzione, per cui sempre la controversia avente oggetto la legittimità o meno della mancata stipula del contratto di appalto entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, quando non dipenda da una revoca dell'aggiudicazione in sede di autotutela, per oggetto questione di diritto soggettivo ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Questo è un consiglio di Stato. Per contro, quando si parla di revoca, voi vedete invece che la revoca, essendo atto del procedimento, essendo appunto riesame o atto di secondo grado rispetto a una procedura di affidamento, è devoluta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo, tant'è che vi ho citato prima sul problema della revoca e della responsabilità precontrattuale un Consiglio di Stato, non una Cassazione civile. Quindi direi che come primo blocco di problemi, insomma, mi sembra che il discorso della giudicazione si possa considerare concluso. Veniamo alla stipula del contratto, che è poi un altro degli elementi che consente appunto di affrontare quelle problematiche che ci siamo già anche detti, insomma, cioè il fatto che la forma deve essere scritta di sostanza, perché la pubblica amministrazione, come diceva un vecchio esperto di procedura amministrativa, l'amministrazione parla scrivendo, per cui non è che non può pensare di dichiarare, cioè di emettere manifestazioni di volontà se non per forma scritta. Quindi la forma scritta è necessaria proprio perché tutti i contratti della pubblica amministrazione richiedono la forma scritta a sostanza. La sentenza che vi trovate citata al numero 20 del materiale a vostra disposizione ribadisce questo concetto, stabilisce che non è sufficiente ad esempio una deliberazione dell'organo collegiale che autorizza a conferire l'incarico oppure l'atto preparatorio del negozio, quindi la delibera ad esempio a contrattare, è necessario proprio un atto scritto che di fatto sistemi concretamente il rapporto con l'indispensabile determinazione di un ordine della prestazione da eseguire al compenso da corrispondere. Quindi il contratto privo di forma scritta a sostanza è nullo, è capitato ad esempio molto banalmente a qualche collega di ricevere incarichi orali da sindaco che chiedeva pareri, questo sembra una banalità, ma chiedeva pareri dicendo ma risolvi questa questione, poi nulla veniva tradotto in, se non forse magari qualche lettera informale, qualche cosa che però non aveva nessun tipo di sostegno nella deliberazione precedente e poi anche nella determinazione del rapporto concreto, per cui, e quindi di fatto ad esempio questi pareri sono stati resi senza poter poi avere nessun tipo di corrispettivo concreto, però vabbè, sono questioni incidenti di percorso. In realtà, per carità, ovvio, su affidamenti, su contratti di un certo rilievo è praticamente impossibile che si arrivi ad affidamenti senza la forma scritta, non fosse altro per lo scambio sostanzialmente di ordine e di esitazione, perché poi vedremo anche in questo, cioè semplicemente la comunicazione, l'aggiudicazione e l'invito a iniziare il servizio di fatto potrebbe già valere. È molto raro che non ci sia traccia scritta di questo, del sorgere del rapporto contrattuale. Però per importi modestissimi, per rapporti magari appunto di modestissima entità, può ancora capitare che si verifichi questo tipo di situazione. Esiste poi tutta una tipicizzazione, la vedremo, probabilmente anzi è il caso di farne subito riferimento. Al di là del problema dell'aggiudicazione, cui ho fatto cenno prima, che poi è assolutamente riferito a ogni tipo di appalto, siano essi appalti di lavoro che appalti di servizi. Per quello che riguarda ad esempio la stipulazione del contratto, l'iter che porta alla stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, tutti questi passaggi, questo sviluppo di operazioni è regolamentato normativamente dal regolamento e positivamente dal regolamento di applicazione della legge quadro sui lavori pubblici. Con questo intendo dire che nei servizi e nelle forniture esiste una libertà di forme, cioè non esiste tutta questa rigidità di scansione, anche perché molte volte i tempi a disposizione, le esigenze stesse delle stazioni appaltanti non consentono e non giustificano il rispetto di queste procedure, di queste scansioni temporali così definite, perché non esistono veramente le condizioni. Nei lavori invece si è stabilito, anche perché la tradizione sul punto è assolutamente centenaria, cioè le regole che portano dall'aggiudicazione al tipo del contratto, all'approvazione, alla consegna dei lavori regole che, ripeto, si ripetono negli anni dalla prima normazione sui lavori pubblici del 1865, quindi non abbiamo inventato nulla, anche il regolamento applicativo della Merloni sul punto non ha introdotto significative novità. Ecco, quando parliamo di procedura per la stipula del contratto, di regole per la consegna dei lavori, facciamo riferimento sempre agli articolati del regolamento, cioè della DPR 554 del 99 e anche a qualche disposizione del capitolato generale, cioè 145-2000, quindi sempre dei lavori pubblici. Quindi nei lavori pubblici esistono questi tipi di previsioni, alcune forse ve le ha indicate anche il collega, le trovate, esatto, ad esempio l'articolo 9 del 145 lo trovate al numero 22 del materiale che vi è stato distribuito. Il 109 e seguenti del regolamento, cioè del 554, disciplinano invece la stipulazione e l'approvazione del contratto. Quindi, se vogliamo giusto fare un cenno, anche perché sono problematiche sotto questo profilo, beh, nello sviluppo procedimentale non impossibili da esaminare, basta un rimando alle norme e chiunque di voi è in grado di ricavare da esse con una certa facilità, quelle che sono le modalità che portano alla stipula del contratto. Però in realtà poi varrà la pena di affrontare quelli che sono, ad esempio, gli aspetti forse patologici o comunque le ipotesi in cui a questa stipula non si addivenga. Se voi vedete appunto l'articolo 109 del regolamento, vedete come la stipulazione del contratto d'appalto debba aver luogo entro 60 giorni dall'aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso, entro 30 dalla comunicazione e accettazione dell'offerta in caso di trattativa privata. Poi al comma 2 è prevista l'approvazione del contratto, quella a cui facevo cenno prima, laddove le amministrazioni statali, si parli di appalti di competenza delle amministrazioni statali, perché in quel caso appunto esiste anche l'avvio dell'approvazione. Esiste poi al comma 3 la possibilità che non intervenga la stipula nei termini fissati dai commi precedenti. In questo caso si deve pensare ovviamente per fatto della questione appaltante, e qui in caso l'impresa può, mediante atto notificato alla questione appaltante, recedere al contratto e al comma 9, pardon, scusate, all'articolo 9, scusate, del 145 vedete viene definito quali sono anche qual è l'entità, del rimborso delle spese in favore dell'impresa che si vede ritardato di troppo il termine per la stipula del contratto e quindi decidi di non onorare più questa offerta. Onestamente, questo per carità è una previsione giusta che in realtà nel concreto non si verifica spesso, cioè mettetevi nei panni di un soggetto che partecipa a una gara, che presenta l'offerta, che vince e che tutto sommato ha tutto interesse a svolgere quel lavoro. È molto raro che, per quanto intercorra più in termine superiore ai 60 giorni tra l'aggiudicazione e la stipula, sia il privato a farsi vivo per dire: guarda, io non ho più intenzione. Può capitare, per carità, però nella generalità dei casi il privato ha sempre interesse ad aspettare eventualmente che l'amministrazione si determini e lo chiami alla stipula, non avrà mai interesse a dire: vabbè, a questo punto mi libero. Possono esserci vicende aziendali tali per cui questo si verifichi, però è veramente molto raro. Diverso è il caso invece, non infrequente per mille motivi, del fatto che l'aggiudicatore non si presenti, l'aggiudicatore privato, quindi l'impresa, non si presenti a stipulare il contratto. E qui vediamo, poi ne affrontiamo, abbiamo voluto parlarne con un apposito argomento sulle garanzie, c'è la cosiddetta garanzia, la cauzione provvisoria, garanzia delle prestazioni, garanzia dell'offerta, delle prestazioni appunto inerenti alla partecipazione alla gara, che copre la stazione appaltante di quelle che sono le conseguenze di questa inerzia, che a volte è determinata da mille fattori. Ripeto, anche lì non dovrebbe verificarsi spesso, però può capitare che il privato si accorga che l'offerta non è più remunerativa e quindi tutto sommato preferisce perdere il 2% di un appalto che poi di fatto si verifica, se eseguito si rivelerebbe magari eccessivamente oneroso. Non è impossibile neanche questo. A me è capitato, ad esempio, banalmente, che il dipendente della ditta che ha presentato l'offerta ha sbagliato completamente in Porto, ha fatto un'offerta veramente troppo a ribasso, ha vinto, è ovvio che ha vinto, però poi quando si tratta di andarla a seguire erano disperati, sono venuti dall'avvocato dicendo avvocato ci faccia perdere, che era, cioè, dopo che avevano vinto, che era la prima volta che mi capitava, non ci siamo riusciti, abbiamo detto che ovviamente era poi fortunatamente una gara di servizi, per cui non c'erano anche tutte queste conseguenze nei lavori dell'incameramento della cauzione, allora non c'era la cauzione che c'era, però sono casi anche lì che capitano una volta in 10 anni, però ci sono anche magari altre cose, litigi tra associate per cui diventa difficile definire quello che all'inizio poteva essere un bel matrimonio, insomma, tra l'interesse tra tutti, andiamo, facciamo la gara, poi diventa una fase complicata di gestione poi dell'esecuzione immediata, allora a quel punto si rischia di non andare a stipulare. Lasciamo poi a parte anche tutte le problematiche relative al fatto che poi in fase di verifica della documentazione, diciamo ad esempio di regolarità contributiva o quant'altro, si verifica che questo soggetto era sì aggiudicatario, è risultato aggiudicatario definitivo, ma non aveva requisiti diciamo di moralità per poter firmare utilmente il contratto, quindi a quel punto comunque non si avrà la stipula del contratto con questo soggetto, di fatto, perché comunque l'amministrazione non vorrà stipulare con questo soggetto. Le vedremo dopo, le garanzie, la garanzia, la cautela provvisoria, cosa copre e cosa non copre. Però l'ipotesi appunto era quella più frequente, è quella che sia il privato sostanzialmente a non presentarsi. Per contro, un ritardo dell'amministrazione nella stipula è difficile che generi quella fattispecie che vi dicevo prima, che pure è normativamente prevista, cioè il fatto che il privato diffidi con atto notificato la stazione alla stipula del contratto, perché ripeto, è abbastanza raro che un privato che ha partecipato a una gara voglia liberarsene con una certa velocità così immediatamente, anche perché l'esperienza insegna che tutto sommato o veramente un bagno di sangue, cioè l'esecuzione con il contratto si evidenzia subito come un bagno di sangue, però l'esperienza insegna anche che il privato tutto sommato dice vabbè, andiamo, vediamo come funziona, poi facciamo riserve, ci renderemo poi conto dopo e cercheremo di rimediare poi dopo. Insomma, non è un operatore economico comunque a volte anche interessato semplicemente all'acquisizione della commessa, perché l'acquisizione della commessa magari serve per acquisire requisiti in altre gare, per acquisire insomma evidenza dell'esistenza sul mercato, quindi varie possono essere le motivazioni. Non arriviamo poi a dire, forse anzi sicuramente nelle lezioni precedenti, quando avete affrontato il problema dell'anomalia dell'offerta, dell'utile dell'impresa, non so se questo problema è stato valutato, però esiste anche questo, cioè si deve anche andare a vedere fino a che punto un'offerta può essere considerata remunerativa a fronte del fatto che tutto sommato l'impresa potrebbe ricavare un utile proprio anche solo dal poter partecipare a questa gara. Pensate, in certe gare non so, di particolare complessità tecnica o nelle gare ad esempio di progettazione può essere più utile poter dire che si è progettato l'edificio particolarmente importante, particolarmente di richiamo, a fronte magari di un utile economico magari molto molto modesto. Per contro, vabbè, ci sono settori nei quali vabbè, queste considerazioni a volte non vengono in rilievo, però ce ne sono altre. Ci sono ormai operatori economici nel settore dei lavori pubblici che lavorano che sono quotate in borsa, per cui poter dire che si è vinta la gara del ponte sullo stretto può avere delle conseguenze sulla quotazione ben rilevanti. L'abbiamo visto, la Stabil che è quotata in borsa e non ha vinto la gara per l'esecuzione del ponte sullo stretto, se mai verrà fatta, ma questo è un altro problema, e il giorno dopo in borsa ha perso 10 punti, insomma comunque un calo significativo della quotazione azionaria. Per cui a volte, voglio dire, i discorsi che vengono in gioco sono diversi e è abbastanza raro che sia l'impresa che stimola e che mette in mora l'amministrazione alla stipula del contratto, perché tutto sommato poi vedremo, ci sono anche l'abbiamo visto già prima, il caso che vi citavo prima della giurisprudenza sulla giurisdizione, non è impossibile che si arrivi alla consegna dei lavori anche prima della stipulazione del contratto, quindi a quel punto l'impresa è ancora più garantita nel momento in cui comunque impianta il cantiere e insomma, di fatto mette la posa della prima pietra, queste cose che possono sembrare banali, acquisisce una posizione, al di là del fatto che, appunto, ripeto, l'articolo si è intervenuto o meno, acquisisce una posizione di fatto molto rilevante in termini anche economici, perché poi a quel punto dall'impianto del cantiere derivano per lei conseguenze favorevoli, cioè poter dire io il cantiere l'ho impiantato, poi su non ha mai, puoi anche decidere di non stipulare il contratto, ma intanto queste spese sono sostenute, e maggiore evidenza è appunto proprio dell'impegno dell'azienda in questi in concreto, e maggiori saranno eventualmente i ristori e le voci di danno da poter ricavare in caso di, insomma, magari interruzione brusca del rapporto contrattuale. Poi un'altra cosa che rileva su questo problema, ad esempio, della stipulazione, l'avvocato Boifara giustamente evidenziava come non sia esperibile nei confronti della pubblica amministrazione, diciamo, l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, tant'è che infatti voi vedete no, questo rimedio non è previsto. Il regolamento che vi citavo prima diceva semplicemente che io non posso obbligare l'amministrazione a stipulare il contratto con me, posso al limite metterla in mora e liberarmi io, recedere dall'obbligo del contratto ricavando quel rimborso di spese che vi avevo detto, ma non esiste la possibilità che un giudice ordinario di fatto imponga all'amministrazione la stipula di un contratto. Anche su questo, ultimamente abbiamo visto qualche crepa su questo fronte, perché nel momento in cui si arriva a dire, a mettere in dubbio, o comunque a valutare le conseguenze che può avere l'annullamento dell'aggiudicazione sul contratto stipulato ad esempio tra altri soggetti, per cui si arriva a dire che tutta la giurisprudenza che si sta creando adesso sul problema della conseguenza dell'annullamento dell'aggiudicazione e gli effetti sul contratto eventualmente stipulato, nullità, caducazione automatica, voi capite che quello che era il baluardo di una volta, che diceva comunque un giudice non potrà mai emettere un provvedimento che appunto intacchi direttamente i rapporti contrattuali e a maggior ragione il rapporto contrattuale in cui è parte la pubblica amministrazione, ecco, tutto questo sta un po' scemando, però fermo restando che queste sono anche evoluzioni che vedremo tutti insieme, nel senso che vedremo come sarà lo sviluppo della giurisprudenza sugli effetti ad esempio dell'annullamento della giudicazione. Ancora adesso, quando si tratta di scrivere norme e regole in chiaro con norme positive, vedete che si è abbastanza rispettosi di questi principi, tant'è che appunto questo sistema dell'esecuzione in forma specifica 2932 non è stato introdotto non ha concreta applicazione nel nostro sistema. Per affrontare gli altri problemi, anche perché alla fine poi le questioni sono sempre molte, la stipula, diciamo, appunto ha queste modalità, ha queste formalità e queste conseguenze. Nei settori che non sono il settore dei lavori pubblici, in effetti si potrebbero invocare alcune delle regole che vi ho citato prima, perché anche lo stesso avvocato Boifava parlava appunto di rimedi all'inerzia della situazione appaltante nei restanti settori, faceva un po' appunto un paragone. Tenete conto che appunto a volte anche la stessa lex specialis che stabilisce la scansione temporale entro la quale si deve arrivare dalla giudicazione alla stipula del contratto. Se voi vedete molti schemi di bando, più che gli schemi di bando, le lettere di invito o disciplinari di gara, lo schema di bando, se lo vedete, se è formulato sul modello della Comunità Europea, dell'Unione Europea, onestamente poco ha di contenuto veramente sostanziale, ha semplicemente crocette e pochi riferimenti, ma diciamo i veri e propri disciplinari di gara spesso arrivano a parlare della stipulazione del contratto. Lo fanno perché comunque devono tenere avvertite le parti private di quelle che sono le modalità per arrivare alla stipula, proprio perché comunque il privato sappia che, anche sto parlando anche dei settori appunto diversi dai lavori pubblici, cioè delle forniture dei servizi, perché ovvio nei lavori pubblici c'è la regola che vi ho citato prima, ma è giusto che anche chi partecipa a una gara per l'affidamento dell'appalto di servizi debba sapere che una volta intervenuta l'aggiudicazione definitiva ci sarà una fase sostanzialmente di verifica della documentazione, del possesso dei requisiti formali e poi comunque un obbligo di procedere a una stipula del contratto, anche perché poi di fatto con la stipula del contratto inizia il servizio stesso, se non si ha la consegna anticipata, e quindi anche tutti i tempi per adeguarsi all'esecuzione del contratto sono a carico poi della parte privata. A me è capitato di assistere un imprenditore che è del tutto ignaro di queste, cioè, le aveva trovate scritte sulla speciale, però poi non si era organizzato in tempo, quindi ha firmato il contratto, poi di fatto ha fatto decorrere per sua negligenza, perché non si era organizzato la provvista per tempo, tutta l'attività di fornitura prodromica all'esecuzione del contratto, ha perso una sessantina di giorni di tempo sull'esecuzione dei contratti, e sull'esecuzione del contratto, trattandosi di un contratto di non lunga durata, era una fornitura di impianti elevatori, quindi di materiale relativo a questi impianti elevatori, poi di fatto è andato in penale quasi automaticamente per un'inerzia sua. Lui ha fatto rilevare che lui ha partecipato a una gara, ha firmato addirittura un contratto, ma anche nell'ex specialist era chiaro tutto questo tipo di scansione temporale, quindi era onore suo dotarsi dei mezzi e dei materiali che servivano fin dall'inizio. Ripeto, questo quindi nell'ex specialist trovate molto spesso, anche nei servizi e nelle forniture, la definizione di quello che è lo sviluppo temporale successivo all'aggiudicazione. Questo vale per i privati, ma vale anche per l'amministrazione, cioè nel momento in cui l'amministrazione queste regole si dà, si autolimita, e quindi possono servire allo stesso privato per dire benissimo, tieni conto che noi questo tempo te lo concediamo, ma anche la stipula del contratto deve avvenire nei tempi che tu stessa amministrazione ti sei data. Del resto forse ne avevamo già parlato, non è tanto qui il caso, perché in realtà qui stiamo parlando appunto della situazione della stipula del contratto, però tenete conto che anche le offerte hanno una validità temporale per il soggetto che le propone, proprio vincolante e limitate nel tempo in cui viene indicato nel bando. Forse ne avevamo già parlato l'altra volta, cioè scrivendo un bando di gara si deve indicare il termine entro il quale i soggetti devono ritenersi vincolati, altrimenti si rischierebbe per alcune gare, ripeto, non è infrequente che alcune procedure di gara durino mesi, se non anche un anno o un anno e mezzo, ecco, non si può pensare di vincolare i soggetti partecipanti per un lasso di tempo così lungo senza consentir loro eventualmente di rinnovare questa proposta, perché poi può capitare nelle gare particolarmente lunghe che i concorrenti vengano chiamati a rinnovare la validità dell'offerta, e così pure qui in realtà se l'amministrazione appaltante dovesse avere esigenze tali per cui la stipula del contratto dovesse intervenire in un tempo diverso da quello programmato nella lex specialis o dettato dal regolamento, potrebbe benissimo dire chiedere al privato aggiudicatario una disponibilità, una dilazione di questi termini. Nulla mi sembra che ostia a questa prassi, a questa procedura. Se poi vogliamo esaminare un altro aspetto importante che riguarda il rapporto contrattuale, quello che è comunque una peculiarità del rapporto contrattuale che viene in essere con la stipula del contratto, con l'inizio dell'esecuzione sostanzialmente, vale la pena di esaminare quello che è il problema delle garanzie. Perché su questo, le garanzie che vengono prestate dai concorrenti in fase di offerta e in particolare dall'aggiudicatario all'atto dell'articolo del contratto sono comunque un elemento importante sia della gara, perché poi in realtà vedremo che la garanzia, la cauzione provvisoria viene prestata in offerta e quindi può anche generare ipotesi di conflitto, perché a volte non è prestata nei modi dovuti, è prestata male, è prestata con modalità insufficienti, quindi questo potrebbe essere un elemento importante. Ma al di là del fatto appunto delle garanzie che rilevano in fase di gara, le garanzie sono importanti, la cauzione provvisoria è importante perché è prestata appunto per garantire la serietà dell'offerta, poi svilupperemo meglio questo concetto con tutti i suoi ulteriori connotati. Invece la cauzione definitiva è prestata dal giudicatario relativo al tipo del contratto a garanzia dell'esatto adempimento del contratto stesso. Quindi sono previsioni importanti, le trovate espressamente previste all'articolo 30 della legge Merloni, adesso non so se, no, in effetti forse su questo materiale non avete, quindi andrò leggermente più piano nelle citazioni e nei riferimenti. Allora, l'articolo 30 della legge quadro sui lavori pubblici stabilisce, soprattutto i primi, sì, i commi 1 e 2, che poi ha uno sviluppo fino al 2 ter, quindi nei primi due commi fino a, stabilisce appunto quelle che devono essere le cosiddette garanzie che appunto il concorrente e poi l'aggiudicatario o l'esecutore deve prestare nell'azione dell'affidamento di esecuzione di lavori pubblici. Quindi se voi andate a esaminare questa norma vedrete che all'articolo 1 è trattata la cosiddetta cauzione provvisoria, possiamo chiamarla cauzione provvisoria, possiamo chiamarla con un termine inglese bid bond, perché laddove bid è offerta e bond è garanzia viene chiamata in questo modo. La seconda, dal comma 2 invece esaminate la cauzione definitiva o performance bond, anche se a detta a voler essere più strettamente rigorosi, in realtà esiste un altro tipo di performance che doveva trovare una regolamentazione apposita, cosiddetta global performance bond, che è normato dal 7 bis, che in realtà poi non ha mai trovato concreta esecuzione. Quindi se vogliamo tenere mantenere la differenza anche in termini anglosassoni, uno è il bid bond, quello del comma 1, e il performance bond è quello del comma 2. Ovviamente le due garanzie svolgono funzioni completamente diverse, anche se poi vedrete che il legislatore ha cercato anche di collegarle, perché ha imposto comunque di partecipare alla gara prestando la cauzione provvisoria con un impegno ad ottenere anche la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione. Quindi il legislatore si è preoccupato anche di questo tipo di nesso tra le due coperture. Allora, intendiamoci bene, la cauzione provvisoria è una cauzione da presentare in offerta, allegata all'offerta, pari al 2% dell'importo dei lavori, poi vedremo che è riducibile al 50%. Questa cauzione si può prestare mediante fideiussione bancaria assicurativa o rilasciata da enti, da intermediari finanziari iscritti a un elenco speciale, e contiene ovviamente anche l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia alla cauzione definitiva, come vi dicevo prima, qualora l'offerente risulti aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e disvincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Okay? Quindi già qui abbiamo la prima definizione sul fatto che questa cauzione serve per coprire la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario. Un po' l'ipotesi a cui facevo riferimento prima, cioè siamo arrivati all'aggiudicazione definitiva, non resta che stipulare il contratto e com'è non è, l'aggiudicatario non si presenta per la stipula. In realtà poi a questa definizione normativa dobbiamo fare un'integrazione con una recente pronuncia dell'adunanza plenaria. Ovviamente la cauzione è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, perché se io appunto presto questa cauzione semplicemente a garantire il fatto che io mi presenti e firmi, nel momento in cui firmo faccio venir meno la funzione stessa della garanzia. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione, anche qui non mi sembra che la norma presenti particolari problematiche. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, anche qui siamo sempre lì, ripete un po' la stessa norma. Poi esiste una disposizione che riguarda entrambe le cauzioni, e vi invito a leggere il 2 bis, la fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui è commi 1 e 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva esclusione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta alla stazione appaltante. Poi la fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla ripresentazione dell'offerta. Quindi qui con queste due previsioni di fatto abbiamo un quadro, diciamo, di quelle che deve essere, sono le caratteristiche peculiari di questa cauzione provvisoria. La prassi dimostra che molto spesso viene prestata mediante fideiussione, mediante polizza assicurativa, non fideiussione bancaria, perché ovviamente è molto meno onerosa. Le banche, per rilasciare una fideiussione di questo tipo, richiedono sostanzialmente un immobilizzo pari al valore della somma garantita. Cioè, se io presto una cauzione per una gara che vale 100, quindi devo presentarla 100, diciamo 100 milioni di euro, quindi devo presentare una cauzione provvisoria di 2 milioni di euro, sostanzialmente le banche chiedono che, non a tutti i clienti, ma a molti clienti chiedono che ci sia praticamente un immobilizzo di capitali per la stessa somma, quindi non c'è nessuno che ricorre a questo strumento, molto spesso si ricorre alla polizza assicurativa, che è molto meno cara sotto questo profilo, quindi nella prassi troverete molto spesso il ricorso a garanzie prestate mediante polizza assicurativa. In entrambi i casi comunque, a parte che potrebbe anche costituirsi una cauzione reale, cioè praticamente depositando presso la tesoreria o comunque gli enti deputati, cioè l'organo deputato di ogni stazione appaltante, la somma equivalente, cioè i famosi 2 milioni li potrei depositare presso la tesoreria. Una volta addirittura in certe gare alcuni concorrenti allegavano un assegno circolare dello stesso importo, perché tutto sommato si erano accorti che era la modalità più economica, perché di fatto andavano in banca per la durata della gara, in gare che avevano brevissima durata, le gare di lavori che si concludono tra l'offerta e la giudicazione magari in 10 giorni, andavano in banca, facciamo l'esempio con i 2 milioni di lire, 2 milioni di lire non era una roba impossibile per qualsiasi impresa, e era probabilmente l'emissione dell'assegno circolare la modalità più economica rispetto a una polizza, quant'altro, perché poi di fatto a quel punto l'assegno veniva, in caso di mancata giudicazione, restituito immediatamente al concorrente che era presente alla seduta, e di fatto veniva strappato, quindi era una modalità, ripeto, molto, molto conveniente. Sono quei trucchi che la prassi dei concorrenti che partecipano magari a 100-150 gare all'anno, o anche 200 gare, perdendo magari per effetto semplicemente della casualità dei meccanismi di aggiudicazione, perdendole magari quasi tutte, loro puntano anche solo alla riduzione dei costi, quindi facciamo anche questo tipo di sistemi. Però ripeto, vabbè, ormai la prassi è quella delle polizze assicurative. La verifica che va fatta immediatamente in fase di gara oppure in fase di offerta, nel senso che non si possono pensare, non si può pensare di presentare un'offerta con una polizza fatta in maniera difforme, deve riguardare proprio le caratteristiche di questa garanzia, cioè la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva esclusione del debitore. Voi sapete che nelle norme civilistiche sulla fideiussione, in teoria il garante potrebbe, ovvero non espressamente previsto, potrebbe chiedere che prima venga espulso il debitore principale e poi appunto eventualmente in caso di mancata utile escussione il beneficiario si rivolga al garante. In questo caso invece no, non avrebbe senso, anzi sicuramente non avrebbe senso pensare un'assicurazione o una banca possa dire prima chiedi all'appaltatore, perché nell'utilità della norma e della stazione appaltante deve esserci proprio la funzione anche del garante, che è una funzione, diciamo, in questo senso di assoluta esigibilità per la stazione appaltante, quindi è inutile che l'amministrazione sia esposta al rischio che l'appaltatore in quel momento poi non è solvibile o quant'altro. Quindi la rinuncia al beneficio della preventiva esclusione e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta alla stazione appaltante. la validità che vi leggevo prima di 180 giorni dalla presentazione dell'offerta è legata al discorso che facevo poco fa sul discorso che le offerte comunque hanno una validità temporale, è inutile che si pensi a una validità, ad esempio, dell'offerta di 180 giorni e poi di una garanzia, che dovrebbe tutelare la serietà dell'offerta stessa, che abbia una durata temporale inferiore. Per contro, appunto, nelle gare nelle quali si prevede che le offerte abbiano una durata superiore, anche la stazione appaltante dovrà peritarsi di precisare che la polizza fideiussora richiesta deve avere una durata almeno pari a quella dell'offerta stessa, perché se no non avrebbe molto senso. Beh, diciamo che sulla nozione appunto della copertura, quindi della garanzia della cauzione provvisoria, è intervenuta significativamente, scusate, un'adunanza plenaria, perché appunto un'adunanza plenaria 4 ottobre 2005, che è in un caso particolare in cui aveva partecipato alla gara un raggruppamento temporaneo di imprese, un'ATI, che non era ancora stata formalmente costituita. Voi sapete, adesso faccio un breve cenno, ma probabilmente, anzi, sicuramente è stato spiegato che si può partecipare alle gare, anzi, probabilmente l'ho già anche di nuovo detto io, perché sono quegli argomenti che tornano. Si può partecipare alle gare d'appalto non necessariamente precostituendo l'ATI prima dell'offerta, cioè non necessariamente andando da un notaio, conferendo mandato con rappresentanza prima della presentazione dell'offerta. Per cui, in mancanza di questo adempimento formale, che è anche costitutivo dell'ATI, si può pensare di presentare un'offerta sottoscritta da tutti i componenti dell'ATI, delle gare rappresentanti di tutti i componenti dell'ATI, sottoscritta e nella quale appunto si assumono, cioè, tutti i componenti dell'ATI si assumono anche l'impegno, in caso di aggiudicazione, di costituire formalmente l'ATI stessa, e quindi questa modalità, che è l'effetto di un principio comunitario che impedisce di discriminare la partecipazione alla gara a seconda della forma giuridica dei concorrenti, cioè è inutile imporre adesso, in fase di mera offerta, a dei soggetti che probabilmente magari non vinceranno, di precostituirsi in ATI quando appunto la costituzione dell'ATI può benissimo avere luogo solo in caso di aggiudicazione. Bene, in quel caso, adesso ho fatto questo breve excursus, ma nel caso specifico della gara, l'offerta è stata presentata da una ATI, RTI costituenda, che però aveva presentato una cauzione provvisoria mediante polizza fideiussoria intestata alla sola capogruppo, che potrebbe sembrare sufficiente, in realtà era capogruppo di un'ATI non ancora costituita. E quindi l'adunanza plenaria è intervenuta sotto questo profilo e è arrivata a concludere che, allora, innanzitutto la polizza fideiussoria, allora, sullo specifico della riunione temporanea vi leggo questo capo di sentenza, che è quello più interessante. Nel caso di riunione temporanea di imprese costituenda, con la fideiussione tramite la quale viene costituita la cauzione provvisoria, il soggetto garantito non è l'RTI nel suo complesso, non essendo ancora costituita, e non è neppure la sola capogruppo designata. Garantite invece sono tutte le imprese associande che durante la gara operano individualmente e responsabilmente nell'assolvimento degli impegni connessi alla partecipazione alla gara, ivi compreso, in caso di aggiudicazione, quello per le future mandanti di conferire il mandato collettivo all'impresa designata capogruppo che stipulerà il contratto con l'amministrazione. Quindi questo capo di sentenza serve a dire che, nel caso di partecipazione a una gara di ATI costituenda, la polizza fideiussoria che costituisce cauzione provvisoria deve essere intestata, cioè deve essere resa in favore di tutti i componenti che poi costituiranno l'ATI in caso di aggiudicazione. Quindi, detto questo, che ha ovviamente un risvolto concreto molto significativo nelle gare, perché ovviamente se si verificasse un caso di una polizza appunto redatta in modo difforme, questo determinerebbe l'esclusione del concorrente per difetto di un requisito fondamentale dell'offerta. L'altra considerazione che poi è importante, che ha portato il consigliato a enunciare questo principio, è il fatto che questa cauzione provvisoria assolve una duplice funzione, ha una funzione, e questo qui mi sembra un punto assai importante per il discorso che facevamo prima, perché sviluppo ulteriormente, scusate, il discorso dell'articolo 30, perché ho detto la cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto. In realtà l'adunanza plenaria riferisce a questa cauzione una duplice funzione, una funzione indennitaria in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, ma un'altra, una funzione più strettamente sanzionatoria in caso di altri inadempimenti procedimentali del concorrente. E nello specifico, quindi, la cauzione provvisoria serve anche a garantire la stazione appaltante nel caso in cui, nell'atico, offerta presentata dall'atico costituenda, le raggruppande non divengano poi invece al conferimento del mandato collettivo, cioè alla costituzione vera e propria dell'ATI. Quindi in pratica il discorso è proprio quello, come vi leggevo prima, la funzione è proprio anche quella di garantire che le varie componenti che si sono impegnate come future mandanti effettivamente conferiscano questo mandato. Quindi in questo caso, se noi ipotizzassimo semplicemente una polizza intestata alla sola capogruppo, sola futura capogruppo, non avremo la sicurezza che le altre componenti dell'ATI siano in questo senso invogliate a divenire poi alla stipula del contratto di mandato e quindi alla costruzione dell'ATI. Mi sembrava significativo anche perché, ripeto, probabilmente qualche concreta applicazione pratica la potrete riscontrare nelle gare, e quindi è poi una pronuncia anche abbastanza recente. Quindi tenete conto che la cauzione provvisoria serve appunto a garantire la stazione appaltante nell'ipotesi di mancata sottoscrizione, ma anche tutti questi altri adempimenti, ad esempio anche pensate nell'appalto di lavori alla verifica campione, non so se avete presente in cosa consiste. Nel corso della procedura di gara si estraggono a sorte alcuni dei concorrenti che hanno autodichiarato il possesso di determinati requisiti, si verifica il possesso di questi requisiti attribuendo al concorrente sorteggiato un termine perentorio per la produzione della certificazione e dimostrazione di questi requisiti. Se questo termine non viene rispettato, questi requisiti non vengono effettivamente dimostrati, si ha la sanzione dell'esclusione che di per sé è già una grave sanzione, ma anche quella dell'incameramento della cauzione provvisoria. Quindi l'elemento sanzionatorio che ha messo in evidenza la adunanza plenaria è anche questo, insomma, di sanzionare tutti quei difetti nella partecipazione alla gara che il concorrente dovesse aver posto in essere proprio, e che vengono ristorati con l'incameramento della cauzione provvisoria. Per quello che riguarda invece la cauzione definitiva, scusate, questa ha un importo diverso, qui veniamo alla lettura dell'articolo 30,2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fiduciaria del 10% dell'importo degli stessi. In caso di indicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fiduciaria è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%, ovvero ribasso superiore al 20%, l'aumento di 2 punti percentuali ogni punto di ribasso superiore al 20%. Quello che vi ho letto dopo, quindi la seconda parte del secondo comma, cioè quando i ribassi sono superiori a determinate percentuali, è un po' un fenomeno, è un po' una previsione che è stata introdotta dal legislatore per una sorta, diciamo, di effetto di dissuasione delle offerte, non in questo caso anomale, perché se fosse anomale avremmo un meccanismo di esclusione, però delle offerte con ribassi eccessivi, per cui il legislatore ha ritenuto che fosse utile cautelare, cioè prevedere appunto una previsione di cautela anche per l'amministrazione stessa in caso di ribassi eccessivi, quindi imponendo al soggetto portatore di questi ribassi in caso di indicazione di prestare cauzioni per importi maggiorati. Beh, in realtà poi sull'entità delle due cauzioni bisogna fare un cenno sul dimezzamento, ma per restare ancora sempre vicino al discorso della cauzione definitiva, essa sostanzialmente è una garanzia sostanzialmente dell'esatto adempimento, probabilmente. Poi qui ci sono problematiche civilistiche non indifferenti, credetemi, sul problema della di cosa in realtà copra la cauzione definitiva, anche perché appunto sostanzialmente è una garanzia che copre appunto l'esatto adempimento dell'appalto. Poi in realtà bisogna andare a vedere se arriva a coprire anche le penali o i danni ad esempio indiretti connessi all'adempimento. Ecco, su questo esiste una giurisprudenza oscillante ed esistono problematiche non nettamente definite. Per contro, l'ultima versione della legge quadro arriva a stabilire anche delle modalità per lo svincolo progressivo della cauzione stessa. E quindi, vabbè, qui vi rimando semplicemente alla lettura, anche perché non dovrebbe essere particolarmente problematica, se non per qualche profilo, diciamo, di difetto di coordinamento con la normativa regolamentare, del comma 2 ter dell'articolo 30 che vi dicevo prima. In realtà quindi si arriva a pensare di fare uno svincolo progressivo della cauzione a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, quindi quello che inizialmente è stato costituito come una cauzione definitiva del 10%, poi vedremo che queste entità sono ridotte, ma vi faccio un cenno adesso, viene pian piano svincolato man mano che procedono i lavori. E quindi, vabbè, sotto questo profilo probabilmente questa previsione è stata frutto di una richiesta esplicita della sezione di categoria degli imprenditori edili, che evidentemente vedevano in questa immobilizzazione, soprattutto per appalti di importi molto rilevanti, probabilmente anche delle immobilizzazioni finanziarie che per loro potevano rivelarsi onerose. Per contro però sminuisce tutta la funzione stessa della garanzia nell'ottica della stazione appaltante, perché comunque se pian piano consentiamo che questa venga pian piano progressivamente svincolata e quindi venga ridotta col progredire dei lavori, sostanzialmente o si ha veramente un controllo efficace, effettivo, in corso di esecuzione dei lavori stessi, di quello che viene pagato e che corrisponde effettivamente a quello che viene eseguito, ecco, quindi qui il ruolo della direzione dei lavori, dello stesso collaboratore in corso d'opera, ecco, diventa rilevante e fondamentale, oppure si rischia veramente di privare la stazione appaltante di quello che poteva essere comunque uno strumento importante, cioè a fronte di effetti magari patologici nell'esecuzione del contratto, la cauzione definitiva costituiva comunque sempre un ammontare definito sul quale fare conto, perché comunque la stazione appaltante al limite incamerava quella e poi andava a litigare sull'entità dei lavori svolti, sulle riserve e quant'altro. Quindi questo progressivo svincolo, quindi questa progressiva riduzione, di fatto priva la stazione appaltante di uno di quelli che erano forse gli elementi un po' forti nella contrattazione sostanziale nell'ambito della patologia dell'esecuzione. Poi ci dobbiamo anche arrivare all'esecuzione, perché sennò il tempo passa e non esaurisco gli argomenti che mi sono stati assegnati. In ultimo vi devo semplicemente... Sì. Temo che non trovi, nel senso che ormai nella parte di lavori questa è la regola e non troverà mai nessuna impresa disposta a accettare patruzioni diverse. Lei comunque non potrà concepire un bando di gara e un capitolato speciale che deroghi a queste previsioni, perché altrimenti appunto rischierebbe l'impugno. Per cui onestamente temo che sia una strada sotto questo profilo un po' segnata, anche se appunto stupisce che questa strada sia stata assunta sotto questo profilo, perché onestamente c'è da dire che a monte di tutto questo il problema forse era un po' la volontà che aveva il legislatore, un disegno che poi in realtà non si è concretizzato, che era quello di corresponsabilizzare nella... Non tanto nella gestione, ma nel controllo dell'esecuzione anche i soggetti garanti. Cioè l'idea che aveva il legislatore era questa: noi affrontiamo tutta una serie di meccanismi per il controllo dell'esecuzione, ma nel momento in cui attribuiamo soprattutto col global performance bond, che poi non ha mai avuto vera esecuzione, però si pensava di poter dire alcune imprese assicuratrici, alcune banche dovranno adottarsi una struttura tecnica tale da poter dire certi tipi di coperture assicurative li concedo solo se l'impresa mi garantisce effettivamente sul fatto che fosse in grado di eseguire questi lavori. Quindi il legislatore aveva pensato un po' a dire: io ho la mia struttura di controllo, direzione lavori, collaudo, però nel momento in cui impongo garanzie un certo tipo anche onerose, ribalto sull'assicuratore una certa funzione di controlli, per cui questo disegno all'inizio è stato concepito in questo modo. Poi si è resi conto evidentemente che le assicurazioni, perché poi dovevano essere forse le assicurazioni il più, non penso che una banca si doti di una struttura tecnica che va sui cantieri o che comunque esamina diciamo abbastanza analiticamente quelle che possono essere le problematiche tipiche di un'esecuzione dei lavori pubblici e quindi decida che certi tipi di garanzie possono avere un costo, le fa tutto, costo standard per tutti ormai. Perché l'idea iniziale era questa: dice, coinvolgiamo il sistema bancario assicurativo anche in una forma di controllo. Nel momento in cui il mercato delle assicurazioni vede in questa prospettiva anche una prospettiva di utili e si dota di certe strutture tecniche, va a verificare la capacità dell'azienda di effettivamente di eseguire il lavoro, però tutto questo era un cartello che poi di fatto non ha avuto concreta esecuzione. Per contro arrivano tendenze appunto che poi sono state soddisfatte, perché questo è il vincolo progressivo è frutto delle ultime modifiche. E quindi il legislatore, appunto, da quello che era il suo disegno iniziale, si è purtroppo adattato alla realtà del mercato. Tenete conto, poi non l'ho detto all'inizio, ma non è un elemento di poco conto, che il 10 e il 2% in realtà vengono ridotti all'1 e al 5% per le aziende certificate con il possesso di certificazione di qualità. Per cui, e questa è l'articolo 8, sempre della qualificazione, perché quello ci sono detti, beh, comunque se un soggetto è anche qualificato in termini di norme UNICEN 4005 e ISO 9000, di fatto opera in qualità, quindi anche sotto questo profilo possiamo accettare garanzie e cauzioni in misura leggermente inferiore. Quindi questa norma, che tra l'altro aveva quando fu introdotta, aveva una formulazione leggermente diversa, adesso nell'ultima versione, quella della comunitaria del 2005, ha solo più questa previsione sul fatto che la certificazione di qualità consente alle imprese certificate di ridurre al 50% la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva. Nella versione precedente di questo stesso comma era prevista anche che nell'appalto concorso le imprese certificate potessero avere dei punteggi, poi si sono resi conto che questi punteggi, appunto in termini di valutazione dell'offerta, poi si sono resi conto che questo non aveva praticamente più senso e quindi è rimasto semplicemente questo beneficio. Per cui tenete conto che lo svincolo progressivo di una cauzione, che in realtà è già solo più del 5%, di fatto diventa veramente un'ulteriore riduzione di quel ammontare che io vi dicevo prima, che costituisce molte volte un elemento utile per l'amministrazione per aggiustare, compiere alcuni aggiustamenti nel corso dell'esecuzione dei lavori. Beh, mi rimangono poco più di mezz'ora i due argomenti prettamente collegati all'esecuzione e vabbè, cerchiamo di farli, giusto perché anche perché sono importanti. Allora, per quello che riguarda l'esecuzione del contratto, innanzitutto in effetti l'avvocato Boifraso vi segnalava anche tutte le modalità di consegna dei lavori e a questo riguardo nei lavori pubblici la consegna dei lavori è tipizzata, vi richiamo l'articolo 139 seguenti del regolamento. Allora, distinguiamo consegna parziale, consegna unitaria, ma anche qui lo trovate regolamentato sempre nel 139 seguenti, perché ho detto 139? Come sono segnato? L'ho visto stamattina. Allora, no, scusate. È 129, scrivo talmente male che ho scritto un 2 per 3. Benissimo. 129 seguenti parla del processo verbale di consegna. Una cosa importante che potrebbe sembrarvi banale, ma negli appalti di lavori la consegna del cantiere ha una funzione importante anche in termini di possesso del cantiere. Non so, forse ve l'ho già detto l'altra volta, non so, temo di ripetere. Però nel momento in cui viene consegnato al cantiere all'appaltatore, l'appaltatore diviene un possessore del cantiere stesso, o quantomeno detentore qualificato, ma secondo me è vero e proprio possessore, di tal che ha in suo favore tutte le tutele tipiche del codice civile, che il codice civile riconosce al titolare del possesso sul bene. A me è capitato di dover difendere, in alcuni casi veramente più che patologici e tragici, il dissidio tra impresa e committenza, l'appaltatore che aveva il potere di escludere dal cantiere stesso il committente, che per quanto fosse proprietario del sito sul quale si svolgono i lavori. Tenete conto quindi che con la consegna del cantiere viene consegnato il possesso del cantiere stesso all'appaltatore, e che quindi solo nel momento in cui, possesso con tutte le conseguenze anche onerose, cioè la custodia, la guardiania, con gli oneri anche di responsabilità che si hanno sul bene, sulle conseguenze che si possono avere sul bene in termini di, appunto, di danni, di tutela dello stesso da interventi di terzi e quant'altro. Però questo elemento è abbastanza importante, anche perché molto spesso certe imprese del possesso del cantiere hanno fatto anche un'arma, diciamo di ricatto, comunque diciamo di negoziazione forte, se vogliamo essere con un eufemismo, perché sì, ad esempio, appunto, si rifiutavano di liberare il cantiere, l'amministrazione, o comunque la committente, anche un committente privato, in questo senso non sono distinte stazione appaltante pubblica da soggetto privato committente, ecco, aveva veramente dei seri problemi per poter rientrare in possesso del cantiere, e quindi molte volte questo possesso è diventato uno strumento diciamo in fase di risoluzione contenziosa, in fase di definizione dei rapporti contrattuali un po' burrascoso, è diventato un elemento anche utile nella negoziazione per l'impresa, che si dice: benissimo, io però non libero il cantiere finché tu non mi riconosci determinati corrispettivi. Ecco, un po' un tira e molla di questo tipo. Non parliamo poi del caso, ad esempio, del fallimento che interviene, il fallimento dell'impresa che interviene in corso di esecuzione con il cantiere consegnato, perché lì appunto per la stazione appaltante pubblica sono dolori veri, nel senso che poi a quel punto bisogna trattare con un curatore per farsi, ripeto, rimettere semplicemente nel posto del cantiere e poi quindi eventualmente riappaltare. Queste sono funzioni particolari, però la consegna del cantiere ha questa finalità e questo effetto. Ovviamente la consegna del cantiere, laddove sia per quanto parziale, ha anche un effetto ovviamente significativo in sensi dei termini contrattuali, se in caso di consegne parziali, scusate, se non è diversamente disposto, la consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale, cioè vi segnalo questo, ai fini esempio del termine di esecuzione, in caso di consegne parziali, l'articolo 130,6 stabilisce che è solo dall'ultima consegna che decorre poi il termine di esecuzione. Vi ho già detto che è possibile comunque la consegna anticipata prima della stipula del contratto. Sto parlando del comma 1 del 129. Ecco, questi sono un po' gli estremi delle situazioni della consegna. È chiaro, poi l'articolo 130, ad esempio, vengono stabilite le modalità per la consegna, il 131 ad esempio prevede, ed è anche significativo, che si potrebbero riscontrarsi differenze tra le condizioni locali e il progetto esecutivo. In quel caso quindi il direttore dei lavori deve riferire immediatamente al responsabile del procedimento, cioè può darsi anche che la situazione di fatto si modifichi nel corso della gara, vuol dire si possono verificare, magari pensate all'occupazione abusiva del suolo da parte di baracche, di nomadi, cioè, le situazioni sono le più varie, oppure un immobile da ristrutturare che di colpo che nelle more è stato occupato da occupanti abusivi che poi a quel punto rendono sostanzialmente impossibile, molto difficile all'inizio delle istituzioni del lavoro. Tutte queste sono circostanze che, per quanto possano sembrare strane, in concreto invece si verificano, e quando si verificano hanno questo, beh, esiste poi questo onere anche della parte privata di segnalarle immediatamente. Non è infrequente che la disamina dei luoghi in fase di consegna rende evidenti situazioni che anche, magari anche lo stesso progetto poteva evidenziare, ma che per negligenza o superficialità o per errore non sono state rilevate in fase di progetto. A me è capitato ad esempio di assistere a un contenzioso, un contenzioso nel quale l'impresa inizialmente, secondo me l'errore è stato proprio quello di non averlo fatto all'atto della consegna, l'ha fatto immediatamente dopo, nelle poche settimane successive, ha cominciato a denunciare difetti del progetto esecutivo, si trattava di una ristrutturazione perché riscontrava difformità tra lo stato di fatto del progettuale e lo stato dei luoghi, tramezze non in più o in meno, portata delle travi. Ecco, il problema è che a quel punto, non avendo l'impresa sollevato queste eccezioni formalmente all'atto della consegna, ha perso molto della forza diciamo contrattuale e processuale, perché a quel punto poi gli si è detto: tu hai visto i progetti, li hai accettati, hai presentato un'offerta su quello, sei arrivato in cantiere, ti è stato consegnato, non hai detto nulla, e a quel punto mi spieghi perché dopo un mese invece salta fuori che i tramezzi erano di più, che le travi probabilmente erano leggermente meno portanti, ammesso che lo fossero. Stiamo andando adesso in tratto in decisione dopo una CTU che è durata un bel annetto, e evidentemente il giudice dirà loro che tutto sommato con questo comportamento, diciamo, anche all'atto della consegna si sono un po' pregiudicate la loro posizione. Quindi quelle che possono sembrare mere formalità, perché poi a volte quelle che sono qui enucleate nel regolamento a volte sembrano veramente enunciazioni magari un po' di stile, clausole di stile in cui il direttore lavori alla presenza delle parti, del testimone, su dico delle cose che possono sembrare banali. Ecco, probabilmente uno leggendo queste cose dice: vabbè, ma perché fanno tutte queste formalità e questi riti? In realtà è perché poi comunque lo sviluppo dell'esecuzione di un contratto, e qui vengo anche fortunatamente al problema ad esempio delle riserve di quant'altro, lo sviluppo dell'esecuzione di un contratto di lavori pubblici e anche di un contratto pubblico di servizi o di forniture, per quanto ovviamente nell'esecuzione vengano in rilievo le norme civilistiche, e su questo non ci sono dubbi, quindi voglio dire le norme sull'appalto privato, di servizi, le norme sulla somministrazione in caso di un contratto di fornitura, ad esempio per periodica, queste cose. Ecco, per quanto, ripeto, i principi e le norme siano di diritto privato, non si può dimenticare che una delle parti contrattuali è comunque un'amministrazione pubblica. Soprattutto nell'esecuzione dei lavori pubblici, la pubblicità di uno dei soggetti che sono parte contrattuale ha fatto sì che si sviluppasse tutta una serie di regole, di procedura, di modalità di esecuzione del rapporto stesso, proprio motivate dal fatto che l'amministrazione non è un committente normale. Adesso con tutto questo, sia in considerazione del fatto che ha delle peculiarità, sia proprio anche solo nelle modalità di pagamento, perché ad esempio può pagare solo sussistente di determinati presupposti, con determinati tempi di adempimento, perché comunque ci sono una serie di visti, di regolarizzazioni e quant'altro, sia perché ovviamente appunto certi tipi di caratteristiche, anche di situazioni particolari, hanno giustificazione solo se l'amministrazione comunque queste cose le conosce adeguatamente fin dall'inizio. Voglio dire, ad esempio il discorso della consegna, che qui facevo cenno prima, probabilmente un appalto privato sarebbe stata forse leggermente diversa, proprio perché comunque forse non c'è tutta la ritualità del verbale di consegna, del contraddittorio. Non credo che, adesso, per quanto forse in contratti privati molto grandi ci possa essere comunque un direttore dei lavori che ha un certo tipo di approccio e probabilmente si rifà anche a queste regole, però in contratti di appalto di privati una certa entità, probabilmente le forme sono molto più libere. Questa libertà di forme poi a volte ha delle conseguenze diverse, anche proprio poi per cui queste cose magari vengono risolte uscendo dai, cioè, lo stesso problema della consegna o dei tramezzi non rilevati, probabilmente in un appalto privato sarebbe stato risolto con tutte altre modalità. Nell'appalto pubblico invece tutta questo insieme di regole formali e procedimentali ha poi una ricaduta non indifferente proprio anche sull'entità stessa delle richieste, delle modalità con le quali queste richieste vengono svolte e sull'accettabilità stessa di alcune di queste richieste. Intendo, per capirci subito, il problema delle riserve, tipico degli appalti pubblici di lavori, ha tutta una sua modalità procedimentale particolare che di fatto porta anche a conseguenze piuttosto rilevanti in termini sostanziali. Voi tenete conto che esiste la regola ormai conclamata per cui la riserva deve essere proposta tempestivamente, si firma con riserva al primo verificarsi della ragione di credito, perché le riserve, in realtà riserva non vuol dire altro che richiesta dell'appaltatore. Il nome riserva sostanzialmente nasceva dal presupposto, nasceva dalla circostanza di fatto per cui veniva presentato un conto redatto dal direttore dei lavori all'appaltatore, questo lo firmava, ma lo firmava con riserva, e quindi il significato della riserva, che poi veniva esplicitata in termini di 15 giorni, cioè che poi veniva appunto esplicitata, cioè analiticamente esposta anche nelle quantità, quindi le riserve non erano nient'altro che la firma con riserva poi tradotta in numeri e ragioni di credito. Quindi tenete conto che appunto a fronte di questa specifica regolamentazione della modalità di apposizione e di esplicitazione delle riserve si può incorrere nella decadenza di quello che appunto non è stato tempestivamente appunto chiesto o esplicitato in termini di riserva stessa. In un appalto privato non si può pensare che ci siano termini di credenziale nel corso dell'esecuzione stessa che determinano sostanzialmente l'impossibilità per l'appaltatore di chiedere quello che effettivamente forse si è reso conto che poteva chiedere 6 mesi prima, perché nella sostanza probabilmente non è che uno non esiste, a meno che non lo normiamo noi contrattualmente nell'autonomia delle parti, facendoglielo sottoscrivere con doppia sottoscrizione, perché comunque sarà una clausola vessatoria in un contratto privato. Qui invece la regola della tempestività, delle riserve e quant'altro è una regola ormai conclamata, assolutamente appunto invalsa negli anni, perché tenete conto che era una cosa che era nella normativa sui lavori pubblici dell'Ottocento e anche nel regolamento del 1999 non è che si sono sognati minimamente di intaccare questo principio. Per cui quello a cui volevo far cenno, che è comunque un elemento importante, voi dovete ad esempio prendere in considerazione quelli che sono gli articoli 156 e seguenti del regolamento, che parlano della contabilità dei lavori, variamente, in realtà 152, ma poi l'elenco dei documenti amministrativi e contabili del regolamento incomincia col 156. Poi se lo esaminate, se date anche solo un'occhiata di massima ai titoli di questi articoli, vedete che appunto vari sono gli strumenti con i quali questa contabilità dei lavori viene svolta. Si va dal giornale dei lavori al libretto delle misure. Il libretto delle misure non è nient'altro appunto che appunto una rendicontazione analitica di quello che viene svolto in cantiere in relazione alle lavorazioni, alle forniture, eventualmente anche ai lavori a corpo, perché anche sotto questo profilo vengono riportati i lavori a corpo. Si forma poi un registro di contabilità che viene sottoposto all'appaltatore, e quello deve firmare con o senza riserve. Qui siamo al 165 di questo famoso ormai regolamento, nel giorno in cui gli viene presentato. Anche qui purtroppo la prassi dimostra che non è proprio tempestiva sempre la presentazione e la sottoscrizione, perché spesso il trasferimento da direttore lavoro a impresa di questo registro di contabilità avviene magari con modalità un po' diverse, nel lasso di tempo magari di un giorno, c'è gente che poi non ha mai restituito il registro di contabilità firmato, ci sono, vabbè, la prassi concreta degli appalti di lavori dimostra situazioni veramente incredibili, in cui di fatto è l'impresa che ne prepara un brogliaccio, poi che non dovrebbe avvenire ovviamente, poi il direttore dei lavori invece lo copia, lo ricopia, lo modifica, vabbè, sono tutte cose di questo tipo, però vabbè, stiamo alle formalità astratte della legge. Allora, diciamo che esiste tutto questo corpus di documenti che sono poi la contabilità di cantiere, sostanzialmente, i documenti amministrativi e contabili che fanno parte di tutto quello che è l'apparato dei documenti di esecuzione del contratto. Nell'ambito di questi il ruolo importante è svolto ovviamente dal registro di contabilità, perché il registro di contabilità non è altro che appunto riportare il frutto di una serie di elaborazioni matematiche, che poi sono quelle dello sviluppo del libretto delle misure. Ovviamente il registro di contabilità viene sottoposto periodicamente, anche secondo determinate ciclicità di tempi che poi vengono definite dal direttore del lavoro, viene sottoposto alla firma dell'impresa, che potrebbe invece in questo senso rilevare difformità o trovare motivi per non riconoscere, quindi firma con riserva. Poi vabbè, vedete, se l'appaltatore ha firmato con riserva, gli deve appena di decadenza, qui la decadenza che facevo cenno prima, che ricordate, non è un'ipotesi diciamo peregrina, perché molta della giurisprudenza arbitrale o civilistica sulle riserve tiene in considerazione rilevante la decadenza e quindi il termine per l'esplicitazione di questa riserva, e non è infrequente che molte di queste domande vengano respinte perché proposte oltre il termine decadente. Sapete, voglio dire, su importi piuttosto rilevanti una pronuncia di questo tipo, insomma, è sensibilmente sfavorevole per l'appaltatore, però non è infrequente, quindi tenete conto che molta giurisprudenza la potete trovare sul punto. Quindi l'appaltatore deve, appena le decadenze del termine di 15 giorni, esplicare le sue riserve o esplicitare, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità, indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Quindi di fatto le riserve o domande o richieste è tutto un sinonimo, voglio dire, cioè sono tutte, nella sostanza sono domande che l'appaltatore fa a fronte di riscontrati difetti nella contabilizzazione, oppure perché le misure non sono corrispondenti a quelle che gli assume essere vere, o perché appunto si sono verificate circostanze che il direttore di lavori ha ritenuto di considerare. Le vicende contrattuali, le vicende esecutive sono le più svariate, a volte vengono richieste esecuzioni di lavori non previsti dal contratto, quindi io devo, siccome invece il registro di contabilità dovrebbe dar conto di quelle che sono solo le voci dell'elenco prezzi e che sono stabilite nel bando e negli allegati della Lex Specialis, se mi fanno fare qualcosa di diverso che nell'elenco prezzi non era contato, è chiaro che io dovrò chiedere l'esecuzione di queste opere extra contratto e quindi chiedere che questa esecuzione venga contabilizzata e mi venga riconosciuta. Poi ci sono le controdeduzioni del direttore dei lavori, perché comunque il legislatore si è anche preoccupato del fatto che il direttore potrebbe anche accorgersi di avere omesso, mal considerato, sbagliato, fatti i conti male, no? Quasi sempre la prassi ci porta a dire che il direttore dei lavori non ammetterà mai, vabbè, ma questo perché a volte si crea un conflitto tra rappresentante dell'impresa e direttore dei lavori, tale per cui diventiamo diventano due schieramenti opposti, per cui qualsiasi cosa dica uno, l'altro non l'accetta, e quindi abbiamo visto delle cose in cui c'erano veramente a volte delle posizioni preconcette. c'è questo primo passaggio delle contraddizioni del direttore dei lavori. Poi c'è la partita provvisoria sui libretti e quant'altro. Tenete anche conto che ormai esiste un orientamento giurisprudenziale, ma mi sembra anche consolidato nel regolamento, cosa che in precedenza non era, che se i miei motivi di danno, di richiesta, sono originati ad esempio da una sospensione, poi vedremo anche il problema della sospensione, o comunque in mancanza ad esempio di una di un'adeguata contabilità, perché può succedere che il direttore dei lavori ometta per mille motivi o non sia in grado di formare una regolare contabilità di cantiere. In quel caso comunque l'onere di immediata richiesta per l'appaltatore scatta comunque, tant'è che voglio dire l'appaltatore non può rimanere inerte confidando nel fatto che non gli è mai stata consegnata la contabilità. Se egli aveva ragione di ritenere che l'esecuzione di certe lavorazioni, che certi tipi di attività siano stati svolti motivando a favore suo una domanda di corrispettivo, deve farlo immediatamente, quindi può farlo addirittura con una raccomandata, poteva farlo addirittura con una raccomandata, sto parlando di casi in cui stiamo parlando di contabilità inesistente, ormai sempre più rara, però può anche verificarsi i casi di appalti in cui non viene mai rassegnata la contabilità, oppure ad esempio in casi in cui viene disposta una sospensione e egli ha ragione di ritenere che da questa sospensione siano comunque derivate o stiano per derivare conseguenze dannose, ecco, l'onere di queste riserve sorge immediatamente. Quindi tenete conto di tutto questo, perché appunto anche diciamo il principio della decadenza ha l'estensione fino a questo punto. Un'altra cosa significativa che deriva dalla posizione di queste riserve è la forma successiva di tentativo di composizione di queste istanze, che è il cosiddetto accordo bonario, cioè abbiamo visto che l'appaltatore firma il registro di contabilità con riserva e immediatamente il direttore lavori potrebbe in parte riconoscere, cioè è chiamato subito a pronunciarsi per quello che riguarda una prima verifica. Non sempre questa verifica porta all'accoglimento, anche perché magari a volte non sono fondate, di queste riserve, e allora il legislatore ha consentito quella che una volta il vecchio regolamento di il capitolato generale chiamava la definizione delle riserve in via amministrativa, cioè una definizione che precede comunque la via giurisdizionale. Nella nuova normativa della Merloni e del regolamento esecutivo successivo si fa riferimento cioè alla 31 bis, il tentativo d'accordo bonario. Allora, in poche parole, il tentativo d'accordo bonario è comunque un momento importante. Nel momento in cui, a seguito dell'iscrizione di riserve su documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale, in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la procedura di accordo bonario, che nell'ultima versione della legge Merloni, perché ne abbiamo avute alcune, adesso passa attraverso la costituzione di un'apposita commissione che formuli una proposta motivata all'amministrazione committente di accordo bonario. Allora, questo è sostanzialmente il dettaglio normativo, poi vediamo altre definizioni importanti, però le premesse sono queste. Allora, si deve considerare che nei documenti contabili siano state apposte riserve che sostanzialmente superano il 10% dell'importo contrattuale. In quel momento scatta sostanzialmente la possibilità direi la necessità dell'amministrazione stessa di procedere al tentativo d'accordo bonario, cioè si è voluto anticipare, evitare cioè che per richieste di un certo importo, quindi quando superano il 10% del importo contrattuale, evitare di arrivare alla fine dell'esecuzione del contratto e assommare quindi richieste economiche molto, molto rilevanti. Si è anticipata la fase di composizione fin dal sorgere di queste richieste così rilevanti, e si è responsabilizzato responsabile del procedimento, cioè si è dato carico al responsabile del procedimento di promuovere quella che potrebbe essere appunto un tentativo di composizione bonaria sulla base di una proposta di accordo che viene poi di fatto negoziata con l'appaltatore stesso costituzione di un'apposita commissione che ha una sorta anche di valore quasi di un arbitrato irrituale, cioè alla quale demandare certi tipi di funzioni anche compositive. Onestamente, questa che, che leggete, che trovate adesso al 31 bis, è l'ultima formulazione della normativa. Inizialmente invece non c'era la figura della commissione, era tutto lasciato al responsabile del procedimento, e lì qualche dubbio sorgeva sul fatto che il responsabile del procedimento, in quanto organo dell'amministrazione, dovesse quasi astrarsi, farsi responsabile e dire sì, effettivamente su questa vicenda tutto sommato potremmo riconoscere noi come amministrazione, perché lui doveva dire io come amministrazione dovrei comunque di riconoscere all'impresa una determinata somma. Onestamente mi sembrava che nella prassi fosse assai difficile che un soggetto comunque funzionario di un ente avesse il potere, la volontà e la libertà anche di fare un tipo di proposta di questo tipo, perché molte volte poi se rimaneva troppo a favore dell'impresa poteva venire tacciato di chissà collusione o comunque chissà quale interesse. Per contro, se rimaneva sulle posizioni strettamente dell'amministrazione, nessun accordo bonario faceva, perché si trattava di non accogliere le richieste, quindi non so quanto dall'altra parte ci fosse disponibilità dell'impresa ad accogliere una soluzione bonaria che non riconoscesse le proprie domande. Allora, nel concreto poi adesso hanno cercato di costituire questo organo tecnico che poi molte volte, per carità, potrebbe avere effettivamente una concreta utilità, perché essendo un organo quasi, diciamo, collegiale, quasi arbitrale, poi dobbiamo fare anche un cenno alla situazione patologica, cioè nel caso in cui l'accordo bonario non si raggiunga, è prevista la possibilità, la controversia di per sé passa alla fase, diciamo, giudiziaria, e a quel punto si tratterà di stabilire se il capitolato non ha stabilito un deferimento al collegio arbitrale, si va al giudice ordinario, altrimenti si fa il collegio arbitrale, si fa il giudice arbitrale. Allora, la commissione così istituita nell'ultima versione della legge quadro, probabilmente appunto in quanto avente una composizione mista, ci sono rappresentanti dell'impresa, rappresentante dell'amministrazione, un terzo tecnico nominato di comune accordo o in caso di disaccordo al Presidente del Tribunale, ecco, potrebbe già essere una prima istanza di compensazione tecnica nella quale probabilmente molte di queste vicende magari vengono risolte, perché ripeto, anche la concreta esperienza di questi conflitti porta a dire che a volte sono effettivamente scelte anche molto di campo, proprio perché si radicalizza lo scontro tra direttore dei lavori e impresa fin dall'inizio, a volte perché il direttore dei lavori magari è stato anche il progettista, e siccome magari l'impresa tende a evidenziare alcuni difetti del progetto, il direttore dei lavori, che è anche progettista, tende a difenderli anche a rispetto di ogni evidenza, e quindi la radicalizzazione dello scontro a volte porta a far sì che magari il direttore dei lavori non riconosca certe cose che pure invece sono evidenti. Quindi la fase di compensazione tecnica, io la chiamo così, vuol dire, comunque questa commissione potrebbe servire proprio per arrivare eventualmente a riconoscere alcune di queste cose che erano evidenti, ma che il direttore dei lavori si ostinava a non riconoscere per motivi di tutela personale, e non è infrequente. L'accordo bonario in questo caso, laddove intervenisse, ha una natura transattiva ed è importante, perché di fatto tronca ogni problema sulle riserve, di fatto la questione sul punto viene risolta, e quindi il contratto continua, che nel frattempo continua ad avere esecuzione, di fatto trova risolto una serie di rilevanti problemi. Tenete conto che la definizione può essere reiterata, la procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per una volta sola. Io ritenevo inizialmente, perché questa previsione non c'era, che invece forse avesse senso farla una volta che si superava il 10%, poi una volta sola alla fine. Probabilmente questo è il senso di questa previsione normativa. Qualcun altro invece sosteneva che ogni volta che c'era il supero del 10% dell'importo contrattuale, magari anche 4-5 volte nel corso di un appalto, di appalti di durata rilevante, ma si dovesse procedere con questa procedura, che poi alla fine diventava anche molto lunga ed fatigante. Comunque, in concreto credo di aver visto 4-5, sì, ormai 4-5 volte l'esito, cioè, diciamo, la procedura di accordo bonario con concreta soddisfazione. Non molte altre volte, però qualche volta si è arrivati anche a questa definizione. Nel caso in cui l'accordo bonario non intervenga, no? Quindi tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, è ovvio che nel caso in cui uno di questi è appunto il mancato raggiungimento, ma altre controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono la risoluzione, il problema della risoluzione delle litigi e quant'altro, in questi casi si arriva a un giudizio che abbiamo detto prima deve essere ovviamente della giurisdizione ordinaria o in caso di esplicita previsione contrattuale di appunto con la competenza di un collegio arbitrale. Questa che leggete è l'articolo 32, o comunque quello che cui vi rimando, l'articolo 32 nella nuova e ultima versione che è stata modificata credo dal decreto compatibilità, comunque nel marzo del 2005, perché anche qui, vabbè, l'articolo 32 credo sia la sesta, cioè la quarta, no, forse di più, quinta versione differente, perché ovviamente da Merano del 94 sulla definizione di controversia abbiamo avuto varie modalità di definizione, proprio perché l'articolo si è sempre spesso modificato. L'importante è questo, nella penultima versione c'era un riferimento chiaro alla Camera arbitrale presso l'autorità di vigilanza dei lavori pubblici. Questa Camera arbitrale doveva operare in forza di un regolamento, il regolamento del Ministero dei Lavori Pubblici, che però è stato in gran parte cassato dal Consiglio di Stato su ricorso, perché trattandosi di regolamento ovviamente era oggetto di giudizio amministrativo, ed è stato in gran parte cassato sul ricorso di alcuni degli avvocati del foro, del libero foro, che ritenevano che alcune di queste previsioni fossero lesive di alcuni principi e interessi generali, e di fatto quindi quella che era la procedura presso la Camera arbitrale ha avuto un brusco ridimensionamento e il legislatore si è reso conto che tutto sommato i giudizi arbitrali prevalentemente possono essere condotti applicando le disposizioni del codice di procedura civile. Quindi c'è stato un breve periodo di vigenza della regolamentazione della Camera arbitrale, adesso si è tornati agli arbitrati secondo le disposizioni del CPC, fermo restando che è comunque possibile in caso di mancato accordo appunto far provvedere la Camera arbitrale, però ripeto anche qui la prassi dimostra sempre di più che quello che è stato un breve periodo appunto di vigenza della Camera arbitrale ha portato a dei disguidi, delle diseconomie di gestione dell'arbitrato stesso, si doveva spesso andare a Roma, usare segretari che viaggiano da Roma per venire a Milano, con accollo di costi non indifferenti alle imprese, alle stazioni appaltanti, quindi di fatto è stato un periodo abbastanza sfortunato, direi, comunque non ha avuto una grande felicità di applicazione. Adesso quindi praticamente si è tornati al giudizio arbitrale secondo le regole del CPC, su questo basta fare l'813 e seguente del codice di procedura civile, o comunque 800 qualcosa delle norme del codice di procedura civile. L'unica appunto avvertenza che rimane è quella di l'obbligo di applicare le tariffe di cui al regolamento che era stato fatto per la Camera arbitrale, quindi si usano le norme del codice di procedura civile, ma si fa riferimento alle tariffe, anche perché sugli arbitrati nei lavori pubblici c'era stata una polemica in epoca post-Tangentopoli, immediatamente post-Tangentopoli, i cosiddetti arbitrati d'oro, c'erano consiglieri di Stato che si erano fatti gli appartamenti, adesso però almeno questo a notizie di stampa, poi adesso non è che stiamo a fare, perché su questo ovviamente, su arbitrati, per arbitrati per appalti di importi estremamente rilevanti portavano a parcelle, comunque compensi per gli arbitri di rilevantissima entità. Resta sempre comunque la possibilità per la stazione appaltante di non prevedere la clausola compromissoria nel capitolato speciale, di lasciare, e mi sento francamente di consigliarla, pur facendo parte di collegi arbitrali in varie vesti, di avvocato, di arbitro, a volte di questa volta anche di presidente, vabbè. Però mi sento onestamente, nell'ottica di un'amministrazione pubblica, mi sento in questo momento anche di consigliare l'esclusione della competenza arbitrale, tutto sommato perché ormai i giudizi sono anche quelli civili abbastanza veloci. A Milano esiste comunque una sezione anche abbastanza specializzata negli appalti, nella sezione civile, che comunque dà garanzia anche del fatto che chi si occupa di queste questioni non caschi dalle nuvole, non è che ha fatto fino adesso incidenti prima gli incidenti stradali, con tutto rispetto, voglio dire, o divorzi e poi la causa immediatamente dopo è le riserve complicatissime di un appalto con ecco, quindi almeno a Milano abbiamo la garanzia, credo anche a molti altri tribunali, sicuramente la garanzia che queste vicende possono essere trattate anche da giudici competenti, specificamente competenti. Quindi tutto sommato non mi sento di dire che il collegio arbitrale sia la soluzione ideale per tutti i problemi. Una volta addirittura le amministrazioni confidavano nel fatto di attribuire alla giurisdizione ordinaria la decisione delle controversie perché i tempi della giustizia erano talmente lunghi che avevano un effetto sostanzialmente anche diciamo di dissuasione dei privati dall'esercizio dell'azione, e invece il collegio arbitrale garantiva, secondo uno comune sopinio, dei tempi più celeri nella decisione. In realtà io ho fatto parte di un collegio arbitrale, anzi ero occupato in un collegio arbitrale che ha avuto un primo lodo emesso l'estate del 94, me lo ricordo perché era il giorno dopo i mondiali, la finale dei mondiali giocata dall'Italia, e non è stato deciso, è stato quel lodo era parziale e purtroppo la decisione finale è intervenuta 4 anni dopo, il giorno dopo la finale di Francia-Brasile. Cioè io me lo ricordo sempre quell'arbitrato, per cui è durato oltre 4 anni alla fase della celerità del giudizio. Sto parlando solo del lodo, poi c'è stata anche la fase d'appello, quindi non stiamo a vedere. Però a fronte di tutto questo, onestamente, dire che la soluzione, la composizione in arbitri garantisca celerità nella decisione, onestamente non me la sento. Per contro, vabbè, forse consente quella che ormai è considerata da tutti, insomma, diciamo una decisione di equità, perché al di là del fatto che gli arbitri possono essere chiamati a decidere secondo diritto, tutti vi diranno che nelle decisioni arbitrali si usa sempre un metro un po' di composizione della vicenda, cioè si cerca sempre di trovare una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti, tant'è che io ad esempio la giurisprudenza arbitrale non mi sentirei mai di invocarla come precedente autorevole, cioè vuol dire ogni arbitrato ha le sue peculiarità e quello che è il lodo di fatto secondo me va letto esclusivamente con riferimento a quella fattispecie, non può enunciare, cioè, la carità, poi ci sono a volte principi generali che chiaramente vengono anche lì utilizzati, però ricostruire pretese, anche vedo a volte che ad esempio nelle riserve degli appaltatori vengono citate giurisprudenza arbitrale, mi sembra onestamente un esercizio abbastanza inutile, perché ripeto, secondo me nel collegio arbitrale si entrano poi in considerazione valutazioni diverse, a volte magari si dovrebbe riconoscere qualcosa, ad esempio la famosa decadenza delle riserve, il famoso termine decadenziale, è molto più facile che lo usi un giudice civile, appunto un giudice ordinario che poi si lega strettamente alla legge, che non magari un collegio arbitrale che tutto sommato dice sì è vero, sono decaduti, però dall'altra parte c'è stato un comportamento dell'amministrazione, ecco, quindi magari trovano una maniera per cui riconoscono queste riserve magari sotto altri profili. Quindi ecco diciamo che l'opinione comune, secondo me non sbagliata, sugli arbitrati è quella che porta sempre un po' a vedere una soluzione quasi non diciamo conciliativa, ma che tiene conto anche a volte di esigenze o di situazioni molto concrete, forse prescindendo dal diritto. Detto questo, per carità, poi il lavoro degli arbitrati, degli arbitri è degnissimo, a volte è anche difficile perché cerca di comporre situazioni che si sono deteriorate, quindi non è sempre facile. Un ultimo cenno, vabbè, proprio perché comunque vale la pena di farlo, sono fatte le 6 passate, è quello ai tempi di esecuzione dei lavori e le sospensioni, perché visto che comunque l'avvocato Boisava ha fatto riferimento a queste circostanze che tutto sommato non sono indifferenti. Allora, a questo punto io vi rimanderei agli articoli che riguardano le sospensioni, che sono il 133 del regolamento, perché di fatto a quel punto lì trovate diciamo anche le condizioni per le quali si può procedere a una sospensione del tempo di esecuzione dei lavori, e quindi sospensione e ripresa dei lavori, E poi la specificazione ulteriore di queste regole negli articoli 24 e 25 del capitolato generale, laddove all'articolo 25 viene chiaramente definito quello che debba intendersi per sospensione illegittima e cosa dia diritto in favore dell'appaltatore la sospensione illegittima. Quindi qui non vorrei limitarmi semplicemente al richiamo di queste norme, vorrei semplicemente dirvi che una sospensione legittima dei lavori laddove ne sussistono i presupposti, su questo chiaramente vi rimando alle previsioni normative e regolamentari, di fatto non fa altro che spostare i tempi di esecuzione dei lavori, per cui è ovvio che nel periodo di sospensione non decorre il termine di esecuzione quando stiamo parlando di sospensione integrale, non sospensione parziale, perché ha ammesso addirittura anche in alcuni casi che venga una sospensione solo di alcune parti dei lavori, delle lavorazioni. In quel caso invece l'effetto sul tempo contrattuale è variato a seconda del rapporto appunto di queste parti sospese rispetto al resto dei lavori che continuano. Ma qui c'è una modalità di definizione anche molto facile, sempre dettata dall'articolo 24. Per contro, invece la sospensione legittima, a parte gli effetti che può avere oltretutto sui termini di esecuzione, perché ovviamente poi sarà l'appaltatore che a fronte della sospensione legittima potrà anche chiedere un differimento del termine contrattuale, dà luogo in favore dell'appaltatore stesso tutta una serie di voci di risarcimento, di restituzione, di voci di corrispettivi che l'articolo 25 ha previsto analiticamente, che dovrebbero quindi essere insomma abbastanza agevoli da verificare. Per contro invece nel caso di sospensione legittima è previsto che all'appaltatore non spetti alcun compenso indennizzo, anche se a me proprio recentemente è successo di vedere riserve proposte da appaltatori che, per quanto la sospensione avessero concordata e sottoscritta insieme alla stazione appaltante, comunque hanno avanzato pretese. Questo poi fa parte anche un po' del gioco, insomma, nella dialettica dell'esecuzione del contratto le riserve spesso sono uno strumento anche per cominciare a testare una serie di richieste che poi magari vengono composte, ripeto, nell'accordo bonario e quant'altro. Quindi lì le circostanze volta per volta sono le più varie, quindi andranno viste volta per volta, ripeto. Però ecco, quindi io credo di avere più o meno esaurito quello che poteva essere il mio compito. Se avete ancora quesiti, visto che sono le 6:10, che dovrebbe poi comunque riprendere anche l'avvocato dopo l'altro, altrimenti terminerei qui, perché onestamente non so più cosa dire. Basta, se vogliamo fare la pausa, così poi quando arriva Maurizio riprendete con il resto della cosa. Devo spegnerle?